Allora, buonasera a tutti, naturalmente un buonasera toscano perché, come è noto, dopo il tocco, a differenza che a Roma in Toscana si dà il buonasera, sono molto contento, anche onorato di ospitare qui nella sede della Fondazione questo seminario di studio, questa mezza giornata di studio che parte dal libro di Giordana Charouti, Ernesto De Martino, Le precedenti vite di un antropologo, e rivolgo il mio ringraziamento alle due associazioni Antropologia Culturale Italiana, la ISEA e l'ANUAC, per avere contribuito in maniera determinante alla realizzazione di questo incontro, naturalmente anche la casa editrice Franco Angeli che ha pubblicato il volume. Ricordo che l'antropologia e l'antropologia culturale, anche l'etnologia, sono di casa in questa fondazione, non soltanto perché membri del nostro comitato scientifico sono antropologi, ma anche perché noi con antropologhe e antropologi abbiamo dei rapporti costanti, intratteniamo rapporti costanti. Ricordo che anni fa, proprio su De Martino, abbiamo discusso qui, discusso il volume su De Martino di Gennaro Sasso, che è citato, tra l'altro anche ricordato in questo libro della Charouti. Devo dare prima un'informazione tecnica, stiamo in attesa di Luigi Lombardi Satriani, che è in arrivo, mentre purtroppo non può essere con noi Clara Gallini, la quale ha inviato però un testo di cui daremo lettura, e Daniel Fabre è rimasto bloccato all'aeroporto di rientro da Barcellona, quindi ahimè è un'assenza pesante, è un collega, un carissimo amico, ma speriamo di averlo in una prossima occasione. Appunto, per quanto mi riguarda, io ho molto appreso come filosofo interessato da molti anni agli apporti dell'antropologia culturale, quindi come filosofo che non ritiene che la concettualità filosofica abbia un'autosufficienza. L'autosufficienza, sono molto interessato alla tematica di De Martino e naturalmente ho molto appreso da questo libro. È un volume ricchissimo che in qualche modo mi ha fatto anche cogliere aspetti, qui cito una frase di Riccardo Di Donato, della preistoria di Ernesto De Martino, che è importantissima anche per comprendere il taglio della sua ricerca, non soltanto dunque la triangolazione a tutti nota con Croce, con Omodeo, con Petazzoni, ma anche ad esempio l'importanza che ha avuto l'incontro con Macchioro, con un archeologo come Macchioro. Io ho avuto anche modo di discutere con Aurelio, con il figlio, di cui presentai quando ero ragazzo un librone enorme che aveva pubblicato da Feltrinelli, ricordo che lo presentai a Lugano addirittura. E quindi l'incontro con Macchioro significa anche incontro con un milieu culturale ebraico mitteleuropeo. Era stato legato a Abi Warburg e naturalmente questo tratto warburgiano per me è stata una scoperta molto importante. Per me, che faccio di mestiere il filosofo, la collana einaudiana di studi religiosi, etnologici e psicologici che dirigeva con Pavese è stato una delle vie principali della mia formazione. Ho visto anche come nelle fasi della sua formazione entrasse in rapporti problematici con la grande scuola socio-antropologica di Durkheim e naturalmente con Lévi-Brull. E e poi come in qualche modo insomma, appunto De Martino avvertisse il bisogno di integrare le coordinate. Ecco Luigi Lombardi Satriani è arrivato, ma no, avevo già annunciato che era in arrivo, ma e appunto le coordinate dello storicismo vanno integrate perché incapaci di spiegare le forme culturali del mondo cosiddetto primitivo, ecco, quindi usiamo sempre questo termine con appunto tra virgolette. E naturalmente sappiamo anche che questa integrazione in una prima fase fu costituita dalla fenomenologia, dalla filosofia dell'esistenza, anche ovviamente dalla psicologia del profondo, perché non dimentichiamo che tra l'altro nel bene e nel male però la psicologia del profondo junghiana ha avuto un impatto sugli studi etnologici sicuramente maggiore inizialmente di quanto non sia stata l'impatto di quella freudiana. E naturalmente la sfida di De Martino, come emerge in questo libro, che ripeto, un libro che non mi azzardo neanche a sintetizzare, era la sfida rappresentata dalla spiegazione della genesi e dei meccanismi simbolici che stanno alla base delle pratiche rituali, oltre che delle rappresentazioni rituali, pratiche e rappresentazioni. C'è le due cose. Come vedete, grande tema dell'antropologia europea. Ecco, nel tentare questa spiegazione, a partire da appunto questi intrecci molto complessi, De Martino ha formulato un concetto che per me, che sono filosofo, è stato sempre un concetto determinante, il concetto di crisi della presenza, no? Che sta ad indicare la situazione di disagio di una comunità dentro un contesto di realtà che sfugge al suo controllo. E quindi le crisi sono determinate anche da una incapacità di governare la situazione presente con gli strumenti della razionalità. Incapacità, questo deficit libera inevitabilmente delle forze distruttive che alla fine rischiano di mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza di una comunità, di interi nuclei sociali. E allora il problema quindi è che le pulsioni, il problema di Martino sta nel fatto che le pulsioni devono essere imbrigliate all'interno di sistemi di norme e istituzioni rituali. Guardate bene, norme e istituzioni insieme, almeno quello che io ho appreso da De Martino, ma anche da questo libro, questa ricostruzione, norme e istituzioni formano un complesso magico-religioso. Giovanni Gervis, che ha lavorato con De Martino, è un altro carissimo amico che voglio qui ricordare, che è scomparso da poco, e appunto ricordo che ogni tanto mi diceva che una delle battute di De Martino diceva questo è un fenomeno magico-religioso, gli diceva Johnny, no? Dice, hai mai visto qualcosa di differente da un fenomeno magico-religioso? Gli replicava De Martino, e mi pare che già dà l'idea in qualche modo di cosa significasse in qualche modo il lavoro su questo appunto complesso di norme e di istituzioni. Appunto concludo con una un'indicazione che ho tratto da questo libro, ma naturalmente dal mio punto di vista. Una sorta emerge molto attraverso una serie di passaggi che hanno a che fare poi con tematiche cruciali di storia degli intellettuali italiani, il fascismo di sinistra, questa tematica del fascismo di sinistra, l'incontro con spirito, il modo anche di leggere questo incontro con spirito, cioè quel crinale strano di organizzazione degli intellettuali italiani che si è dato a cavallo tra fascismo, iperfascismo e antifascismo. Una rivista Primato, naturalmente, era stata una delle chiavi. Chi vi parla ha fatto in tempo a essere anche allievo, sia pure per un anno soltanto, di Delio Cantimori, nel senso che ho seguito un corso di storia moderna con Delio Cantimori a Firenze, ci ho fatto anche un seminario, come dire, giusto in tempo, visto che poi nel settembre di quello stesso anno, che era 65-66, settembre 66, è cascato dalla scaletta mentre andava a prendere un libro ed è morto. E, ecco, diciamo, Cantimori è un'altra figura, in qualche modo, di passaggio estremamente significativa tra fascismo, iperfascismo e antifascismo. Ecco, il versante doppio che io ho colto, per un verso la critica alla prospettiva storicistico-umanistica, che con un assunto etnocentrico trattava come inferiori o primitivi determinati contesti. E però l'altro lato è però acquisizione alla cultura di pratiche, usi, costumi, rituali, rappresentazioni, ritenuti appunto espressioni invece naturalistiche, cioè che tutto ciò che la concezione umanistica e storicistica relegava nell'ambito del primitivismo e nel naturalismo invece acquisivano una rilevanza culturale. E quindi una prospettiva che secondo me non è soltanto un tema, questo che avevamo affrontato anche con Sasso anni fa, non si limita unicamente a sottolineare l'intreccio tra dimensione razionale e dimensione religiosa o tra mitos e logos, ma va al di là e cerca di aprire un quadrante comparativo che non si limiti soltanto all'Occidente, ma che sia in grado di determinare delle comparazioni anche con tutte le civiltà. Quindi la prospettiva de Martiniana sembra a me essere una delle prospettive più diciamo cosmopolite, più espansive, sia dal punto di vista dell'intreccio tra linguaggi disciplinari diversi, tra parentesi De Martino è spiegato in questo libro, come dire, ha sempre avuto una incertezza, ma questo me lo direte voi, ad autodefinirsi, se dirsi etnologo, se dirsi antropologo, se dirsi storico delle religioni, ma cosa importa in fondo? Cioè ciò che importa è usare i linguaggi congrui, funzionali alla comprensione di determinati fenomeni. Questo è ciò che conta, e non la autodefinizione o, per fare una battuta sulla nostra università, o ciò che ne resta sui settori scientifico-disciplinari. Ecco, quindi questo ho imparato e, diciamo, appunto ringrazio molto la professoressa Giordana Sciaruti per averci dato un contributo così ricco e, per quanto riguarda me, soprattutto così istruttivo. E io seguirei, non ho avuto altre indicazioni, la draconiana logica, che non è una logica poi, ma è un destino legato all'ordine alfabetico, quindi la parola al vecchio amico Riccardo Di Donato, che vedo qui dopo tanti anni. Dopo varie occasioni di incontro sono felice di dargli la parola. Ti ringrazio. Confesso, ma è l'unico pensiero fuor d'opera, che avevo desiderato per questo pomeriggio di sole che noi viviamo, diciamo, in spirito, in quella che è la mia città natale, in cui torno sempre con grande entusiasmo. Avevo desiderato di poter cominciare dicendo: la voce è poca ma è intonata. Purtroppo, diciamo, soprattutto in corso d'opera tende al cavernoso, e io mi auguro che sia l'unico aspetto, diciamo, che vi potrà turbare, diciamo così, dei pensieri che intendo proporre. pensieri che, come uno dei maestri che anche a me è capitato di incontrare, diceva pensati, e quindi scritti, seguiranno l'ordine che hanno preso in queste poche cartelle. 15 anni fa, nel 1995, Clara Gallini e Marcello Massenzio organizzarono, con felice scelta del momento, un convegno internazionale intitolato ad Ernesto De Martino nella cultura europea, i cui atti furono pubblicati 2 anni dopo a Napoli presso l'editore Liguori. Il convegno, che si svolse tra Roma e Napoli, a Napoli nella casa universitaria di Amalia Signorelli, che è qui con noi, coinvolgendo nelle due città un numero confortante di studiosi, alla presenza di studenti delle diverse università interessate, il convegno coincideva con l'avvio della pubblicazione presso l'editore Argo di Lecce della serie intitolata L'opera di Ernesto De Martino, che iniziò con la prima riedizione, seguita 2 anni dopo da una rivista, di Naturalismo e Storicismo nell'Etnologia, e poi dai volumi contenenti testi e materiali provenienti dall'archivio De Martino, allora custodito da Vittoria De Palma nella sua abitazione rovana. Nel novembre dell'anno precedente si era costituita l'Associazione Internazionale Ernesto De Martino, come realizzazione del desiderio di dare continuità istituzionale e respiro più ampio al lavoro di ricerca sull'opera dell'antropologo meridionale, costantemente animato da Clara Gallini, alla quale va con quello che già è stato espresso il mio saluto augurale. Sono stati quelli e i pochi immediatamente precedenti, sono stati per i nostri studi anni molto proficui e, in una dimensione più soggettiva, anche anni molto belli. Più di uno tra noi ricorda il calore e la semplicità dei contatti allora stabiliti, i pasti consumati nella cucina della casa di Vittoria tra una consultazione e l'altra delle carte, o le discussioni con Clara, con Marcello e con tutti gli altri amici. L'esordio de martiniano, a me noto, di Giordana Charuti è nel contributo alla sezione internazionale di quel convegno. Si intitola L'antropologia del simbolico ed è una manifestazione d'attenzione e di interesse immersa ancora in una situazione di lontananza rispetto all'oggetto, è un regard éloigné, sinceramente. Cui seguì 2 anni dopo una sezione di un fascicolo di Gradivà, Revue d'Histoire d'Archives d'Anthropologie, in cui erano gli esiti di un seminario dell'anno precedente e tra questi un nuovo saggio della Charuti, L'Ethnologue et les Citoyens, in cui veniva considerata di nuovo, come novità rispetto all'impostazione precedente, su base documentaria originale e quindi archivistica, la prima attività etnografica di De Martino subito dopo la guerra. Avviata evidentemente fin da allora una più ambiziosa impresa biografica, la nostra amica, la nostra collega, si è misurata con le difficoltà della ricerca, ha preso contatto con tutti noi con una tenacia ammirevole e in questa ha conseguito successi importanti. Vittoria De Palma ha deciso di affidare a lei, dal proprio archivio personale, un carteggio della prima giovinezza de martiniana, un carteggio intercorso tra il 24 e il 32, con un altro giovane, uso un'espressione omerica, dai pensieri profondi, lo specchio di questo amico, perché di questo si tratta, diciamo, noi abbiamo i pensieri riflessi da quelli di questo giovane aspirante medico che si chiamava Forte, si è rivelato importante per meglio definire la personalità del futuro studioso, perché siamo negli anni tra il liceo e la laurea, tra l'inizio di una formazione fiorentina e la prosecuzione della medesima formazione con la conclusione del liceo e poi gli studi universitari a Napoli. Gli esiti di quella prima esplorazione su un terreno totalmente originale da parte della Charité sono apparsi in un saggio intitolato Il poeta e lo studioso, una corrispondenza giovanile, e pubblicati nel 2005 in un volume su Ernesto De Martino, la formazione del suo pensiero, ancora una volta curato dalla nostra Clara Gallini, che ha raccolto in quello i contributi di alcuni suoi collaboratori e amici. La ricerca di Giordana Charité si conclude, ma come vedremo si conclude solo provvisoriamente ora, con la pubblicazione avvenuta nel maggio del 2009 di questo cospicuo volume, Ernesto De Martino, Les vies antérieures d'un anthropologue, apparso a Marsiglia in una sede universitaria nei Parcours méditerranéens per le edizioni Parenthèse, in associazione con la Maison des Sciences de l'Homme, la cui sede storica nella quale quella centrale, quella parigina, nella quale molti di noi hanno trascorso giornate luminose, ha cessato di esistere per colpa dell'amianto, e quindi ne salutiamo tristemente la scomparsa. Una biblioteca in cui molti di noi hanno lavorato, si annuncia un futuro, come dicono i parigini, nella proche banlieue, e noi auguriamo a coloro che avranno la fortuna di frequentare quei luoghi di trovare la stessa accoglienza, la stessa amicizia, la stessa apertura intellettuale che generazioni di studiosi hanno trovato presso i nostri colleghi francesi. Il libro esce ora in una attenta traduzione italiana che è stata curata da Adelina Talamonti, cui già i nostri studi debbono la cura del sesto dei volumi dell'opera di Ernesto De Martino, quello che raccoglie i testi della ricerca sui guaritori e la loro clientela, pubblicati nel 2008 con una lunga introduzione di Clara Gallini. Prodotto di una ricerca condotta senza risparmio di tempo e di energia, ho dato delle coordinate temporali che rendono chiaro che qui non c'è nessuna improvvisazione, questo libro appare certamente importante, desidero dirlo, molto importante, anche al di fuori della dimensione della ricezione internazionale dell'opera de Martiniana cui ho fatto riferimento. Cioè, non è importante semplicemente perché apre alla cultura francese la possibilità di misurarsi con alcuni aspetti del pensiero e della vita di De Martino, ma perché dà a noi italiani un contributo con uno sguardo che ha le caratteristiche che ho indicato e che aiuta noi a capire cose che non avevamo capito. Per quanto volontariamente questo libro scelga una modalità comunicativa che appare lontana dalle forme ordinarie della storiografia, preferendo uno stile narrativo con felici momenti letterari, e per quanto pensato per un pubblico francese, esso oscilli, come è inevitabile, nella annotazione perpetua tra quello che per noi è troppo e quello che per noi è troppo poco, lo storico della cultura non potrà rimproverare al libro nulla di quello che c'è. Il lettore professionale, quello che utilizza gli strumenti per la ricerca, si limiterà a sottolineare quello che per scelta nel libro non c'è. Non c'è una bibliografia della critica utilizzata, non c'è un repertorio delle fonti e forse dal punto di vista della praticità del lavoro non ci sono degli indici, a partire da quello elementare dei nomi, che meglio ne permetterebbero la consultazione come strumento di studi. Questo è un fenomeno che si sta generalizzando e che è totalmente estraneo dalla volontà degli autori. Gli editori risparmiano sui sedicesimi, e quell'ultimo sedicesimo sembra, voglio dire, un'ultima Thule irraggiungibile, diciamo così. Ecco. Ma la ricerca biografica, intendo dire quella qui condotta, io distingo la ricerca da là, perché professionalmente sono obbligato a prendere in considerazione il fatto che la storia è historias apodexis, esposizione apodexis della ricerca. Prima si fa la ricerca e poi si espone. Questa ricerca è stata esposta, è stata scritta per essere letta e appare manifestamente finalizzata a procurare nel lettore il piacere del testo, con tutta la valenza anche di soggettività che questa espressione comporta. Io ho parlato, a dispetto del plurale, che considero molto impegnativo, plurale che appare nel titolo, è impegnativo nel sostantivo, vite, ho parlato di ricerca biografica, non di ricerche biografiche. Ma rispetto a quale vita si racconta di una plurale anteriorità? Quale è il De Martino di cui si vuole capire la formazione, percorrendone le vicende in forma narrativa e alternando descrizione e storia del lavoro realizzato? Quando si arriva a utilizzare un documento, c'è il racconto di come il documento è stato trovato, e alcuni di questi racconti sono non soltanto dei pezzi di bravura diciamo notevoli, il passaggio di Giordana Charité dagli archivi della diocesi di Napoli è qualche cosa che merita di essere sottolineato a lettori non distratti e disposti appunto a provare e a gustare le plaisir du texte. Alternando quindi questa descrizione del lavoro realizzato alla manifestazione di certezze o incertezze documentarie e poi fattuali che ne derivano. Quello che il volume esplora in vera profondità è proprio quello che nel suo saggio su Gradivà, prima del passaggio del millennio, Giordana Charité ha definito l'ethnologue e citoyen, perché è di lì che il libro parte dalla ripresa di quel saggio, e entro questa ripresa trova le motivazioni per cercare i fili che devono poi essere svolti per comprendere come De Martino è arrivato a essere l'intellettuale impegnato, nel senso che questo termine ha preso senza connotazioni nella cultura francese del secolo passato, engagé, il quale, raggiunta dopo un cammino assai tortuoso, perché il momento della etnologia militante è un momento di militanza comunista, vuole vivere la pienezza della organicità del suo pensare e del suo agire rispetto a una dimensione collettiva di azione che mira alla trasformazione del reale. Qui il mio vecchio compagno Giacomino diciamo sentirà un modo diciamo molto togato di parlare di cose che hanno fatto vibrare la nostra giovinezza, non soltanto quando cantavamo, ma quando cercavamo anche noi, per carità, della generazione dei figli di quelli che stiamo descrivendo, abbiamo cercato coerenza fra il pensare e l'agire. Ma nel caso di Ernesto De Martino la sintesi dei due momenti era la sua vita, quella che, guardo volentieri il sorriso di Vittoria, era il suo traversare i luoghi nei quali conduceva la sua ricerca, convinto di contribuire con quello stesso lavoro a un'opera di emancipazione delle classi subalterne. Le tre parti di questo libro cito i titoli della traduzione italiana, Entrare nella storia, L'angelo tutelare, Le guerre di un antropologo, scandiscono un percorso di vita che la autrice condensa intorno a tre nozioni successive. A ciascuno di questi periodi corrisponde sostanzialmente una nozione. La religione civile, un fascismo giovanile vissuto con mistica intensità. Io uso un'espressione che alla luce degli ultimi documenti qui pubblicati diciamo permette di collocare la crudezza, voglio dire, a chi avesse letto alla mia generazione «Dormi Giovanni Berta, dormi tranquillo il sonno, ti vendicheremo un giorno, ti vendicheremo un giorno». Questo è l'inno degli squadristi fiorentini. Trovarlo in una lettera di Ernesto ad Anna, diciamo così, fa una certa impressione. Nella Toscana, in cui Giacomo ha insegnato per anni e io vivo e insegno, c'è un'espressione che definisce la condizione della pelle, che si raggriccia in questi casi, diciamo così. È una reazione fisica, perché siamo esseri umani e quindi abbiamo anche queste reazioni. Poi c'è la religione della libertà, quella, io lo dico non a Giordana Charuti, che ben lo sa e che per fortuna ha cominciato a lavorare quando qualcuno aveva eliminato il problema, quella che ci è stata presentata dalla generazione degli studiosi che ha preceduto la nostra come totalizzante, cioè De Martino per lo storicismo di Galasso era Benedetto Croce, Benedetto Croce e Benedetto Croce, senza sfumature, per cui per arrivare a dire che così non stavano le cose è stato necessario armarsi di santa pazienza, studiare, scrivere e anche, voglio dire, sostenere il dibattito. Anche perché questa religione della libertà in De Martino, io ritengo, possa essere intesa come momento liberatorio personale e insieme di conciliazione con il mondo rinnovato che affronta ed esce dalla guerra. Ecco, questo. Terza fase, qui c'è la distanza fra le nozioni, ma di queste cose dovrebbero occuparsi altri, io faccio il filologo di mestiere, è il folklore progressivo, in cui l'uomo nuovo compie il passo finale di ricomposizione di sé con quella che dicevo raggiunta coerenza tra il pensare e l'agire. Quindi il folklore progressivo, la pratica della vita che coincide con lo svolgimento dell'opera. Detta così la cosa appare davvero complicata. Che coerenza si può stabilire fra religione civile, religione della libertà e folklore progressivo? E nella realtà, sia in quella del vissuto che in quella del racconto, deve essere stata ancora di più complicata e deve essere stata motivo di non piccola sofferenza, innanzitutto intellettuale. Forse questo giustifica quella nozione plurale di vite precedenti o antérieure nell'edizione francese, cui lo storico razionalista e storicista si piega con sincera difficoltà. Uno il soggetto, uno l'attore del percorso e il protagonista del racconto, una la vita con tutte le sue grandezze e con le sue miserie. Quella vita, come abbiamo solo incominciato a vedere, ne incrocia molte altre e di tutte queste, con cura minuziosa e con felicità di espressione, intende occuparsi la nostra autrice. Le tracce che insegue ripercorre, quelle note e quelle non ancora note, disegnano quadri cangianti e colorati. Dopo l'amico della giovinezza, questo medico Armando Forte, un amico felicemente ritrovato, la figura che meglio viene illuminata fino alle avventure intellettuali nel lontano Oriente, su cui apprendiamo molto più di quanto non sapessimo, è quella di Vittorio Macchioro, la cui influenza accompagna De Martino per tutti gli anni 30, influenza diretta. La Charité ha scelto di attentrarsi nella documentazione già depositata presso la Facoltà di Lettere di Trieste e a questa ha aggiunto il prodotto di nuovi documenti, soprattutto provenienti dall'epistolario familiare, provenienti da quello che qui viene citato come archivio personale di Aurelio Macchioro e che per una parte deriva da carte che sono state messe a disposizione da Vera De Martino. Tutto questo getta luce nuova sulla figura dell'archeologo triestino, studioso di misteri, e meglio chiarisce il modo in cui la vita di Ernesto arriva ad intrecciarsi con quella del suocero su di un punto, la redazione di un sofferto romanzo in cui il primo trasfonde elementi della propria autobiografia e il secondo lavora alla riscrittura con una intensità che conduce la nostra autrice ad attribuirgli nella finale breve bibliografia de Martiniana addirittura la paternità del volume. La disponibilità relativamente recente, dei diari di Michele Scifarelli, esponente del liberalismo e poi del Partito Repubblicano a Bari, e l'abbondanza della, scusatemi, e l'abbondanza della documentazione di recente acquisita chiariscono definitivamente la maturazione antifascista di Ernesto avvenuta lentamente nel circolo dei crociani di Bari con il finale crollo dell'idolo dello storicismo assoluto, il fatto fondamentale che appare un De Martino personalmente critico nei confronti di Croce e della persona filosofo nel decisivo momento di ricongiunzione tra ideale e reale. Il filosofo della ribeltà non supera agli occhi dei giovani baresi la prova dell'avvenuta liberazione e questo aiuta Ernesto ad operare la nuova svolta, direi questo si possa dire. Luce abbondante, se non ancora piena, è quella che viene ad illuminare il De Martino antieroico del passaggio della guerra in Romagna, dei mille turbamenti intellettuali da cui esce con il suo mondo magico, che appare parecchio in ritardo rispetto allo svolgimento del pensiero del suo autore e quasi lo obbliga a ritorni all'indietro. Dopo Napoli e Bari, dopo la Romagna, dopo la Trieste di Macchioro, la scena si sposta nella Roma del dopoguerra. Forse qui, lo dico perché facciamo tutti lo stesso mestiere, c'è una lacuna argomentativa che è connessa allo scarso peso che nel racconto viene attribuito ad un'altra e ben diversa presenza del percorso de Martiniano, la presenza di Raffaele Pettazzoni, che tuttavia diverrà decisivo per la opzione storico-religiosa e per la realizzazione intellettuale, diciamo così, degli studi de Martiniani, anche se questo avviene nel tempo immediatamente successivo a quello scelto dall'autrice, la quale conclude con assoluta felicità, immaginando Vittoria che dica all'indicativo, al suo compagno, basta Ernesto, bisogna che ti metti a lavorare, è un endecasillabo naturale, diciamo così, di quegli endecasillabi che escono dal cuore, e avremo così morte e pianto rituale, sud e magia, poi la terra del rimorso. Su questo, grazie, Giordana Charité, antropologa di forme popolari della cristianità contemporanea, a quello che gli strumenti della ricerca sulla rete permettono di ricostruire, degli studi che conduce al di fuori di questo campo di comune interesse, potrà certamente regalarci un altro libro per condurre a nuovo termine la sua storia. Per intanto, nella postfazione scritta per il lettore italiano, annuncia la disponibilità di nuovi documenti, il cui carattere tutt'altro che banale evidenzia con pochi primi saggi di pubblicazione. Uno è quello che ho dato. Fin qui i frutti di una lettura che deve, concludendosi, esprimere rispetto e ammirazione per i veri risultati della ricerca e della esposizione, cui vanno augurati molti e attenti lettori. Farei questa proposta. Io ho un'altra mezza pagina di pensieri su quello che dovremo fare. La terrei qui e starei al qui. Vi ascolto e poi semmai vi ringrazio. Grazie a Vicente Donato per fare una lettura in tema non solo filologica, come dicevano i tedeschi, verstehend, comprendente all'interno, anche con una serie di integrazioni e di osservazioni qua e là, critiche. Chiederei adesso al collega Francesco Faeta di dare voce all'intervento di Clara Gallini, intervento scritto che ha mandato Clara. Sì, abbiamo ricevuto questo intervento da parte di Clara con preghiera di leggerlo, che è datato 3 marzo 2011 e che vi 3 marzo suppongo fosse 3 febbraio, quindi dovrebbe essere stato scritto oggi. Il 15 dello scorso ottobre sono stata operata all'encefalo. L'intervento è riuscito, ma la convalescenza è molto lunga. Ho pensato che sia una punizione anche per voi vedere una relatrice con la faccia storta e un occhio tamponato, oltre che udirne l'eloquio non chiaro. Per me sarebbe anche stata la prima volta che parlavo in pubblico e non mi sono sentita pronta. Il libro di Giordana lo conosco nel suo farsi iniziale, quando l'autrice abitava da me e godeva dei libri della mia biblioteca. Poi si è reso autonomo, frutto di un lavoro lungo e minuzioso, di scavo negli archivi, tradotto in modo egregio da Adelina Talamonti, inaugura una collana a cui facciamo tanti auguri. Il libro è soprattutto nuovo nel metodo. Molto ci sarebbe da dire su un testo così nuovo nella sua impostazione, che connette autobiografia e scritto scientifico secondo modi che sinora si consideravano scissi l'una dall'altro e che Giordana invece ha saputo ricongiungere in modi convincenti, proprio ripercorrendo una storia che è assieme affettiva e intellettuale. Credo anche che da questo libro gli studi dei martiniani avranno molto da trarre, a partire dai due temi cui accennerò qui di seguito. Primo tema, il precoce incontro con l'altro. E qui non mancheranno tra i relatori riferimenti ai luoghi, ai lunghi, correggo, e poi abbandonati i rapporti con Macchioro. Rapporto contrastato, a cui De Martino non avrebbe poi più parlato nella sua seconda lingua, vita, ma anche relazioni feconde, appunto per quel rapporto con l'altro che si rivelava nelle lettere dall'India. Più in generale, Giordana ha aperto un mondo nuovo, tra l'altro un De Martino autore di un romanzo ora perduto, rivelato al lettore grazie a un minuzioso lavoro in un archivio sinora noto solo molto parzialmente. L'archivio Macchioro è, insomma, una vera scoperta. Secondo tema a cui vorrei accennare, ma qui siamo nel primo dopoguerra, l'autobiografia, il De Martino che precocemente scrive in prima persona per narrare la storia. È una dimensione molto importante, che sfocerà in quell'etnocentrismo critico che ci mostra un De Martino anticipatore di riflessioni molto attuali negli studi etnoantropologici. È molto interessante, a questo punto, è la connessione tra scrittura autobiografica e scoperta di quel mondo, che allora si diceva popolare e che sarebbe stato oggetto di osservazioni e narrazioni da parte di svariati scrittori, ampiamente citati da Giordana, marcando quasi un'epoca. E questo, d'altra parte, è il punto che avrei voluto discutere con lei. Il concetto di popolare, già discusso in quei tempi, trovava allora la sua connessione col concetto di impegno politico. Che la sinistra fosse a quei tempi dominante nella cultura ci viene oggi fin troppo spesso rimproverato dalle destre più svariate. Ma l'intellettuale politicamente impegnato di allora era mosso da passioni e da storie del pensiero che ne agitavano l'animo, inducendone svariate e fortissime polemiche proprio col partito. Di questa dimensione, partito con la P maiuscola, di questa dimensione non trovo che esili tracce nel libro di Giordana, ed è questa forse la sola critica che mi sento di muovere adesso. Siamo forse in tempi molto diversi e può risultare al di fuori della propria sensibilità ritrovare passioni politiche che l'attualità ha spento in molti di noi. Qui fermo il mio discorso perché leggere in pubblico un altrui scritto è sempre molto noioso per l'uditorio. Non mi resta che ringraziarvi tutti, sperando che, proprio per la sua impostazione metodologica, il libro di Giordana interessi al di là della ristretta schiera degli etnoantropologi. Grazie. Noi speriamo, anche se diceva Spinoza la speranza è una passione triste, ahimè, noi speriamo che le passioni politiche non siano affatto spente in questo paese, e ce n'è bisogno. La parola adesso a Luigi Lombardi Satriani, proprio seguendo l'ordine. No, stai tu, dai. Solo per il tempo di questo intervento e poi restituisco a chi di dovere, cioè a Giacomo Marramao, fra l'altro caro amico e padrone di casa, la poltrona che gli compete. Io sono molto soddisfatto che l'occasione della presentazione dell'edizione italiana del libro su Ernesto De Martino, Le precedenti vite di un antropologo, mi coinvolge e mi dà lo spunto per essere assieme a voi in questa giornata di studi. E sono grato perché mi sembra questa un'occasione di grande importanza. Trovo molto opportuno il fatto che Francesco Faeta, con rigore e passione, con quella precisione che tutti gli conosciamo, accurata questa giornata, in accordo ovviamente con la Fondazione Basso, qui rappresentata da Giacomo Marramao, con il patrocinio della ISEA, l'Associazione Italiana per le Scienze Etnoantropologiche, che ho l'onore di presiedere, e con l'ANOAC e con la casa editrice Angeli, qui rappresentata da Maria Galloro, editrice del volume e particolarmente attenta alla pubblicazione e di testi etnologici, pensiamo alla collana del compianto Bernardo Bernardi di etnologia, e pensiamo all'attuale collana di antropologia visuale diretta da Faeta. Quindi un'occasione felice. Perché? Perché a me sembra che questo libro può segnare un forte stimolo ad una rilettura, ad un ripensamento di De Martino. Sappiamo che Ernesto De Martino ha avuto un'importanza fondamentale per la ripresa degli studi demo-etno-antropologici in Italia dal secondo dopoguerra. E sappiamo che al suo nome ci si è rifatti proprio per un'antropologia critica che fosse anche pervasa da tensione politica, da progettualità politica, quella passione che anche io, Giacomo, penso possa benissimo ritornare anche in questi tempi così banalmente fatui e ghignanti. Però, e quindi i nomi da ricordare sarebbero tanti. Ha fatto bene Riccardo Di Donato a ricordare le coordinate spazio-temporali degli interessi dei martiniani di questi ultimi decenni, di fornire anche alcuni dati biografici che sappiamo si arricchiscono dei contributi fondamentali di Clara Gallini. Anche da parte mia a Clara Gallini l'augurio più cordiale, il saluto più cordiale, ma Marcello Malsenzio, a Maria Signorelli, molti di noi hanno tentato di riproporre delle valutazioni critiche sul pensiero e sull'opera de Martiniana. Ma allora perché salutare con tanto entusiasmo, come io mi accingo a salutare con molto entusiasmo e condivisione l'opera di Charotti? Riccardo Di Donato, con grande onestà intellettuale, ha espresso anche la sua perplessità sul titolo, posto l'unicità di una biografia. Ognuno di noi non può che essere se stesso, pur nella molteplicità delle sue fasi, ha senso parlare delle precedenti vite di un antropologo? E a me questo titolo mi sembra particolarmente stimolante, proprio perché Giordana Charotti parla di precedenti vite di un antropologo. Noi, ed è quello che stavo dicendo poc'anzi, proprio per l'importanza che De Martino ha avuto per i nostri studi, siamo indotti a ritenerlo essenzialmente l'autore delle classiche monografie, È morte pianta rituale, È la terra del rimorso, è anche l'autore del mondo magico, l'autore di quelle opere sicuramente che attengono alla dimensione demo-etno-antropologica. È vero, Giacomo De Martino aveva incertezza se definirsi etnologo, antropologo, storico delle tradizioni popolari, solo quando sperò inutilmente di essere chiamato a Roma aveva scritto un appunto per dire: certo, io mi sono occupato di etnologia, ma in fondo l'etnologia è un viaggio attraverso le Indie, i primitivi esterni, ma chi si occupa anche di primitivi interni, le Indias Poracca, a qualche titolo, ma era strumentale a una chiamata che d'altro canto l'Università di Roma, chiusa nel fortilizio delle sue etnocentriche e toschicentriche certezze, certo non volle riconoscere. Sì, certo, ma io ambisco a dire cose vere, non cose false. Ma dicevo, è vero questa incertezza di autocollocazione disciplinare, ma tutto sommato la vulgata, l'accezione che immediatamente viene da fare parlando di Ernesto De Martino e le scienze demo-etno-antropologiche. Emdea, come con orribile termine burocratico ministeriale viene detto. Ma cosa ci invita a fare Giordana con questo libro? Guardiamo un po' prima, vediamo come nasce l'intellettuale De Martino e quali sono le suggestioni teoriche, quali le prospettive nelle quali situa le sue riflessioni, qual è l'influenza dell'idealismo, qual è l'influenza di Gentile, qual è l'influenza del fascismo, dell'ideologia fascista. C'è una fase in cui gli scritti di Ernesto De Martino sembrano essere orientati ad una lettura, diciamo, da sinistra del fascismo. Questa è un'illusione che in Italia ebbero alcuni intellettuali, pensiamo a Pigliaro, pure Pigliaro pensava potesse essere, e attraverso Gentile, ma un Gentile letto da sinistra, i filosofi sanno bene che e difficilmente un autore è collocato inevitabilmente o da una parte o dall'altra. Un pensiero è sempre una realtà magmatica, ha delle linee di superficie e corsi, ruscelli che si inabissano e poi riemergono. Questo magma che porta alla cultura fascista e che viene da un certo hegelismo di sinistra, ma viene da un Marx, riletto il Marx dei manoscritti economico-filosofici del 1944 e così via, e viene dall'influenza di Evola, viene l'influenza di alcuni che poi elaborano la mistica fascista e quindi chiamano ad una tensione verso l'ideale, verso il sacrificio. Penso a Massimo Scaligero, per esempio, che scrive ed è il redattore di Difesa della razza, ma che attraverso tutti i discepoli di Evola e così via, questo insieme, questa costellazione di figure e di prospettive e teoriche influenzano il giovane De Martino. Intanto vediamo, ed è questo, lo mette bene in luce Giordana, il fatto cosa significa vivere non in grandi centri, non a Roma, a Milano, non adesso, in epoca di internet e in epoca di possibilità di fruizioni attraverso mezzi telematici con tante altre. Si può anche consultare una biblioteca negli Stati Uniti o di qualsiasi altra parte, o quella dell'Ecole, ma oggi. Ma cosa significava vivere a Napoli e a Bari? E lo abbiamo dalle lettere, dalla ricerca ossessiva di libri, di abbonamenti a riviste, di speranze di essere mentore, ed è il rapporto con Macchiore, la scelta di Macchiore, perché è vero che c'è sullo sfondo Benedetto Croce, ma è anche vero che è assolutamente parziale, ha fatto bene Riccardo Di Donato a dire la visione di Giuseppe Galasso di ricondurre tutto De Martino a Croce è totalmente, può riflettere la fedeltà del discepolo crociano Galasso, ma certo non convince nessuno di noi. Del resto è lo stesso Galasso che rimprovera a Le Goff, all'ultimo libro di Le Goff, di essere troppo tributario dell'antropologia perché poco attento allo storicismo. Ora, con tutta la cordialità che possiamo avere verso Peppino Galasso, francamente, da un punto di vista scientifico, questo crocecentrismo al quale pateticamente Galasso è attaccato, lo dobbiamo respingere come impertinente rispetto a una prospettiva critica, quale che siano i rapporti personali che ciascuno di noi può avere, ma ovviamente dobbiamo discutere di prospettive scientifiche, sì, ma il problema non è la mozione degli affetti, è la persuasività di una prospettiva scientifica. Cosa voglio dire? Croce era insufficiente come punto di riferimento. È vero che lui stesso dirà che quando c'era un, prima ancora che uno sciamano chiudesse, tentasse di chiudere l'Europa in una bara di fuoco, lui trovava asilo nelle severe stanze di Palazzo Filomarino, Palazzo Croce a Napoli, ma è una parte della formazione de Martiniana. C'è Croce, ma ci sono tutti, c'è la cultura fascista e c'è la dipendenza da Macchioro. Lui sceglie, lui lo dice proprio, lo dice persino con accenti giovanili, per non dire infantili, non vorrei, perché è quello, voi siete maestro, io voglio a voi, e quando qualche volta tenta di andare un po' più là nella familiarità e nella confidenza con Macchioro, che fra l'altro è pure diventato suo suocero, Macchioro lo rimette a a posto, e lui dice, scusi, fa un passo indietro e si riafferma, affezionatissimo discepolo. Quindi il rapporto di discepolato, questo rapporto di discepolato con Macchioro, Giordano Cerotti la mette benissimo in luce, ma anche illuminando il personaggio di Vittorio Macchioro, perché poi parla dell'uno e dell'altro. Comunque parliamo dell'autore di Zagreo, parliamo di quell'autore di Zagreo che è in rapporto con Eliade e che fa conoscere a De Martino Eliade. De Martino deve a Eliade molto, moltissimo, molto più di quanto egli stesso vuole riconoscere, perché poi De Martino non era particolarmente generoso nel riconoscere i suoi debiti intellettuali. Molte volte li taceva, li dimenticava, era distratto, alcuni li diceva, altri non gli dicevano, quando non gli sembravano politicamente corretti, li ometteva. E di Eliade, tutto il discorso del passo indietro, per l'eterno ritorno, il passo indietro per poter andare avanti, ma tutta la tecnica del trascendimento, tutta la messa in opera, per cui per piangere bisogna fare come se non si piangesse, come se questo non fosse avvenuto, se fosse avvenuto in maniera impersonale, il passo indietro per poter fare il passo avanti, ma questo è uno schema che De Martino prende da Eliade. Eppure non lo riconosce, pur riconoscendolo. Io ho visto nelle carte di De Martino, consultate per l'ospitalità di Vittoria De Palma, che mi ha messo a disposizione questa lettura. Parecchi anni fa, Rocco Brienza, Mariano Meligrane e io avevamo pensato di scrivere un libro su De Martino e andammo a casa di Vittorio De Palma e incominciammo a guardarmi. Io ricordo quante volte De Martino si professa attento interlocutore, ma anche disponibile all'ascolto di Eliade, quell'Eliade che la cultura di sinistra poi accusò di essere particolarmente di destra e quindi non facilmente citabile in epoca ideologicamente connotato, come era il clima delle scienze umane e il clima intellettuale sino a qualche decennio fa. Quindi il panorama è composito. Intanto questo intellettuale, ecco perché precedenti vite, perché poi De Martino è diventato antropologo, però nei primi anni poteva diventare anche altro, poteva diventare filosofo, poteva diventare uno storico della cultura. Per quanto riguarda, io penso che molte volte le partizioni così rigide hanno un'utilità nell'ordinamento degli studi e nelle discipline concorsuali, ma non nell'avanzamento del pensiero. Il pensiero prescinde dalla collocazione così esatta, dove lo si mette, in un palchetto o nell'altro, ma lo si mette in quelle scienze che riflettono sull'uomo, sul destino dell'uomo nel mondo, sulla condizione umana, sui suoi sogni, sui suoi ideali, le sue speranze, certo anche sulle modalità della cultura, ma non solo su questo. Diventa antropologo. Le precedenti vite, che secondo me De Martino poteva essere uno storico del pensiero, poteva essere un narratore. E questo l'avevamo intuito quando l'aveva intuito anche Cases, quando parlava di De Martino come uno dei migliori prosatori del Novecento, la pagina demartiniana che si affida molto alla seduttività della parola e un discorso che si fa seguire, ma poteva essere un narratore. Adesso con il romanzo certo, pensato da Macchioro. La vicenda di Macchioro è tragica, un grande studioso che però a poco viene attirato dall'irrazionale sino al punto da perdere l'ancoraggio della razionalità. Io trovo questa una vicenda tragica, tragica esistenzialmente perché perseguitato come ebreo, eccetera, tragica perché è tragica sempre l'esperienza della follia, ma quando questo prende persone che fanno del metodo scientifico e quindi dello studio, sembra un paradosso della storia, un'ironia. Ma quando parla tra i romanzi, mette in bibliografia Charotti, Il gioco di Satana, attribuendolo a De Martino, sotto lo pseudonimo di Benedetto Gioia, e quando va a verificare la prima versione, la seconda versione, fa un'operazione di grande stimolo, cioè ci fa vedere, poteva essere un narratore, avrebbe fatto tanto la passione civile, l'impegno, la dimensione missionaria che si rivela nell'appello ai giovani, c'è sempre, sia quando crede che questo può essere declinata nella dimensione fascista, sia quello che si fa nel dopoguerra, perché poi del dopoguerra in poi c'è un accostarsi sempre maggiori di Ernesto De Martino al marxismo, c'è l'abbandono dell'idealismo speculativo, c'è l'esperienza fondamentale della Lucania, il vecchio che lo chiama nell'androne, tu parla a vicenda, e fin quando l'idealismo speculativo resta come compito, come progetto, lui ritiene più fondamentale, più decisivo per lui l'impegno accanto alle classi oppresse, quindi la compartecipazione al progetto di liberazione, il famoso pezzo sul furore che lo prende proprio lui, intellettuale, piccolo borghese, quando scende per i quartieri della Rabbata a Tricarico e vede il consumarsi di tante esistenze in tane immonde, per cui avverte la vergogna del privilegio che l'intellettuale piccolo borghese è. C'è tutto questo, quindi nessuno discute l'approdo e la felicità dell'approdo di Ernesto De Martino, quello che si discute è da un certo punto in poi, ma intanto c'è una vita anteriore, sono d'accordo, sono vite precedenti, Giordano, e hai fatto bene, a mio avviso, a porli in risalto. C'è una vita di un giovane intellettuale meridionale che è preso, i giovani hanno questo desiderio di assoluto e tanto più facilmente possono essere preda di mestatori che variamente si richiamano ad essi, mai come in questo periodo si parla dei giovani, vediamo il precariato, tutta l'ipocrisia con cui hanno sempre ragione, e proprio hanno tanto ragione che ogni volta che si tratta di fare un provvedimento nei loro confronti non lo fanno, però vengono sempre usati, qui di fronte anche, ma vengono usati come motivazioni per far passare altri provvedimenti, ovviamente verso categorie di privilegiati. Ogni volta che alcuni privilegiati se la pigliano con altri, sempre che appartenenti alle stesse classi, si accusano reciprocamente di privilegi immondi e ingiusti. Ma è il gioco delle parti, è un gioco che non convince nessuno. In questo caso noi abbiamo una sferzata, abbiamo il rapporto con Macchioro, abbiamo altri rapporti che vengono messi in luce. Io vorrei ricordare il rapporto con un etnologo che troppo spesso noi in Italia abbiamo guardato con sufficienza e con ironia, Boccassino. Noi conosciamo, molti di noi hanno conosciuto Boccassino e sappiamo quanto fosse chiuso nella sua grettezza autoreferenziale cattolico-conformistica, padre Smith e altri. Io stesso ricordo da giovane, quando ero oggetto delle sue attenzioni come commissario, mi andava a chiamarmi volta a volta a casa sua, io andavo, un commissario ad un concorso, e allora facevo la libera docenza in etnologia, puoi non andare a discutere con un commissario che ti chiama. Dopodiché dopo avermi domandato una serie di chiarimenti che già erano presenti nel testo, dice, però lei purtroppo è marxista, io non posso votare. E alla fine, una volta, due volte, tre volte, alla fine gli ho detto, professore, e non mi votano. E poi cercai di non farmi trovare più quando mi telefonava. Quindi io non che ho di Boccassino personalmente un ricordo di grande apertura. Però devo riconoscere che grande apertura Boccassino nei confronti di De Martino l'ha mostrato. C'era una maggiore età di Boccassino nei confronti di De Martino. De Martino era a Bari, non aveva possibilità di abbonarsi che a uno, a due riviste, non aveva la possibilità di consultare libri che invece Boccassino, che era qui a Civiltà Indigena, al museo, e aveva e sicuramente poteva partecipare anche per le sue entrature in Vaticano. E allora De Martino e Boccassino mette a disposizione di De Martino la sua biblioteca, gli presta dei libri, accetta di leggere gli scritti e di fargli delle osservazioni. De Martino, che ancora non aveva fatto pratica etnografica e ne era consapevole, e lo diceva, dice, io voglio però fare pratica etnografica, mi aiuti lei, poi incomincio ad andare nel sud, eccetera. Io devo dire che da queste pagine e dalla lettura attenta dell'epistolario, questa figura che aveva studiato con padre Smith, che poi era entrato in Italia, si era chiusa in una difesa della scuola storico-culturale, della difesa di padre Smith, ma che comunque è personaggio di grande interesse. E bene hanno fatto, nei decenni precedenti, sia Pietro Angelini che Francesco Pompeo a pubblicare delle lettere di Boccassino e il rapporto che Boccassino ha con tanti altri intellettuali, compreso De Martino, un altro dei motivi, a mio avviso, di grande interesse. Certo, poteva essere ulteriormente focalizzato il rapporto con la scuola storico-religiosa di Roma, abbiamo Pettazzoni, abbiamo Brelic, abbiamo via via, fino a Mazzoleni, c'è tutto una grossa storia di studiosi delle religioni che ancorano fortemente le loro ricerche in una dimensione storicistica, il che non avveniva perché la storia dei religioni, che molte volte era ritenuta di pertinenza confessionale, quindi qua poteva essere ulteriormente focalizzato. E devo dire che certo, un libro è un libro, e al di là della tautologia non può esaurire tutti i problemi, e dal momento che io non voglio dire solo le cose positive, che sono legione, sono numerosissimi i motivi per cui questo libro vale la pena prenderlo, leggerlo direttamente, rapportarsi criticamente, ma si possono anche fare dei rilievi. Io avrei preferito che vi fosse a volte una maggiore cura nell'indicazione a proposito della bibliografia di De Martiniana, delle diverse edizioni, dei diversi prefattori, postfattori, introduttori, sino alla citazione di quel panorama spedizioni che raccoglie in volume gli scritti di De Martino in interviste o in trasmissioni radiofoniche. Quindi qualche piccolo neo può essere registrato, come non sarei così sicuro di attribuire a Cocchiara un rapporto di discepolato con Raffaele Corso all'Orientale a Napoli, come pure Giordana dice, perché noi sappiamo che Giuseppe Cocchiara e Raffaele Corso ebbero itinerari accademici diversi, ma anche itinerari fortemente polemici, non vi è un rapporto. Cocchiara, che pure ha un rapporto con De Martino, non ha un rapporto con Raffaele Corso, se no conflittuale e di rivalità. Voglio dire, alcune integrazioni potrebbero essere fatte, e siccome io auguro a questo libro un enorme successo e quindi anche una seconda edizione, se Giordana vorrà, queste piccole integrazioni potranno essere fatte. Ma ciò non toglie che l'opera è di estremo interesse, nella successione, nell'individuazione degli interlocutori che lui sceglie, e Macchioro e Boccassino per un certo punto, e anche Croce e tanti altri, del piano narrativo, perché sceglie anche la suggestione della parola, e di questo ho già parlato, e di tanti altri aspetti. Molte vite De Martino ha avuto, molte esperienze di vite ha avuto, molti itinerari intellettuali, itinerari scientifici ed esistenziali ha compiuto. Io spero che molte vite De Martino, antropologo, avrà anche nella sua fortuna. Abbiamo avuto un De Martino degli anni 50 e poi degli anni 80 e poi del primo decennio di questo millennio, e speriamo che da questo libro in poi si possa parlare di una nuova fase, di una nuova vita di De Martino, e anche questo sarà dovuto alla sferzata intellettuale e amichevole che Giordana Charotti, con uno sguardo da lontano, molte volte la cultura francese ha un'inutile albagia nei nostri confronti. Non si vede perché, solo perché francesi devono ogni due minuti farci gli esami di rivoluzionarietà e di sinistrismo. A volte gli intellettuali francesi, questa autoreferenzialità per cui si considerano i detentori e gli unici eredi della ragione, ce l'hanno. Però è anche vero che non è un caso che dalla Francia, cioè dallo sguardo da lontano, ci è venuto un invito a riconsiderare la figura di De Martino, non consegnandolo inevitabilmente come busto al pincio alla sua dimensione monolitica di antropologo. Grazie. Riceviamo. Ho visto Bonivini e questo ragazzo, e si chiama Giacomo Marremà, la poltrona che gli compete. Allora, ringrazio molto Luigi Lombardi Satriani per questo contributo, anche mi è sembrato molto brillante, generoso, pieno anche di spunti di grande rilievo, che derivano da una conoscenza profonda dell'opera di De Martino e anche delle prospettive che l'opera di De Martino ha aperto. E una battuta soltanto sui francesi: i francesi hanno dato un'ospitalità negli ultimi anni al pensiero italiano, al pensiero anche rigoroso e radicale, che invece la nostra Repubblica a stento ci dà. E quindi io ritengo che la Francia, da questo punto di vista, la considero un po' la mia seconda patria negli ultimi tempi, e penso la patria di tutti noi. Allora, quindi la parola a Marcello Massenzio. Allora, il mio discorso si articola in due parti. Una parte che ripercorre un po' i temi che sono stati affrontati, anche se spero in maniera originale, e una seconda parte invece in cui propongo una chiave di lettura di una parte che a me sembra la più suggestiva del libro di Giordana, una chiave di lettura personale, quindi sulla quale possiamo discutere. Quindi comincio con un inquadramento generale, ripeterò delle cose, però ripetita iuvant in questo caso. Il percorso intellettuale e politico seguito da De Martino negli anni della giovinezza e della prima maturità è così complesso, così ricco di tensioni contrastanti, da far pensare che non basta una sola vita per contenerle tutte. E per questa ragione che il titolo, ancora io parlo del titolo per prima cosa, che il titolo scelto dall'autrice mi sembra molto pertinente. Per tentare di ricondurre tanta straordinaria ricchezza di fermenti ad una proposta interpretativa unitaria, farò riferimento ad uno dei criteri fondamentali di cui si avvale lo stesso De Martino, che De Martino mi ha trasmesso. Si avvale lo stesso De Martino nel delineare la storia delle idee che caratterizza un certo ambito culturale. Penso in particolare a Morte e pianto rituale, in cui l'autore, dopo aver analizzato i vari contrastanti modi di pensare, di definire culturalmente la morte in Occidente, li inserisce all'interno di un quadro storico imperniato sulla nozione guida di svolta, di discontinuità radicale, in breve di rivoluzione culturale. È una scelta di metodo innovativa che esclude l'idea del passaggio progressivo, dell'evoluzione lineare e soprattutto necessaria, da una fase preparatoria e incompiuta ad una fase in cui le potenzialità si traducono pienamente in atto. Adottando criticamente tale parametro alla vicenda biografica demartiniana, appaiono in piena luce le fratture, le svolte, i mutamenti di rotta non improvvisi, ma lungamente meditati che la traversano. Allo stesso tempo, un occhio vigile riesce a cogliere alcune costanti di notevole spessore che per un verso conferiscono un andamento unitario alle molteplici vite anteriori dell'antropologo e quindi riducono in qualche modo il molteplice ad uno e per altro verso fanno da trait d'union tra il prima e il dopo, tra le vite anteriori e la vita codificata del personaggio. Quindi un modo per organizzare in unità tanto sul piano, diciamo, orizzontale che sul piano verticale. Penso in primis alla passione intellettuale, una passione a 360 gradi che alimenta sempre, quali esse siano, le scelte di campo, che non sono mai riconducibili a motivi di convenienza e di calcolo. L'amalgama di impegno speculativo e di tensione emotiva è la cifra della personalità scientifica ed umana di De Martino, sempre. Amalgama che, a partire dal mondo magico, si risolve in stile, in scrittura di impronta molto personale. Un ulteriore elemento di cerniera tra il prima e il dopo, su cui mi soffermerò un po' più a lungo e purcos, dato il mio mestiere, riguarda l'attenzione costante che De Martino ha riservato alla dimensione del religioso. Vista da prospettive, certo, quanto mai diversificate tra loro, parlando schematicamente per blocchi, comincerò col segnalare il forte interesse per la religione civile che determina e sostiene l'adesione del giovane studioso al fascismo. E questo è interessante sottolineato, non è un'adesione al fascismo tout court, è un'adesione al fascismo mediata dall'interesse per la religione civile, è una differenza non da poco sulla quale si può discutere, guai a perderla di vista. È un aspetto noto questo. Ma che l'analisi acuta di Giordana Sciariuti, nutrita con me di documenti d'archivio, ci permette di valutare in modo compiuto, con la necessaria, finalmente, serenità di giudizio. Qualche tempo addietro, apro una breve parentesi un po' ironica, si sarebbe detto, vedendo questi materiali, Riccardo ha citato uno particolarmente inquietante, ecco, questo è il De Martino che non ci piace, che altro dall'immagine che ci trasmette la sua produzione matura. È certamente così. Ma questa affermazione, appunto vera, traduce una reazione immediata, puramente emotiva, alla quale bisogna contrapporre la volontà di sapere, che non si può restare di fronte a nulla. Volontà di sapere subordinata, senza apriorismi, all'intelligenza storica dei dati concreti. Ed è questo quello che ci invita a fare il libro, appunto, che stiamo presentando, trattando un argomento così delicato senza farsi pudori. Riprendo il filo del mio discorso sull'interesse costante per la dimensione del religioso, citando un breve passaggio del libro in cui Giordana Cerutti sintetizza le tappe ideali del lungo viaggio di De Martino attraverso la religione, ripercorrendolo a ritroso. L'autrice, dopo aver esaminato in tutti i suoi risvolti la complessa nozione di folklore progressivo, non mi addentro in questo campo così delicato, mi limito a citarlo, e questo all'interno di un paragrafo che porta un titolo molto significativo, tra il religioso e il politico, le liturgie della memoria, un titolo che mi è piaciuto moltissimo. Dunque, all'interno di questo paragrafo, l'autrice pone il seguente interrogativo. Folklore progressivo, due punti. Nuovo nome della religione civile, nuovo nome della religione di libertà? Sarebbe facile pensarlo. E qui vorrei dialogare poi magari un po' con te. Io credo che tu in realtà lo pensi. Si tratti appunto del nuovo nome, appunto, che ha assunto questa religione variamente declinata. E credo che Giordana lo pensi, se è vero che nel fare il punto sulle molteplici attività politiche, sociali e culturali in cui De Martino si impegna con il consueto fervore, dando tutto se stesso nel periodo della Resistenza, appunto Giordana evidenzia il ruolo di, cito, animatore di nuove ritualità civili assunto appunto dal nostro. Quindi anche in questo frangente in cui è chiaramente appunto sul piano dell'engagement politico eccetera eccetera, anche in questo caso appunto si propone come animatore di nuove ritualità civili, e sarà questo un interesse appunto che porterà sempre con sé, che proderà alla teoria abbozzata finché si vuole ma interessante del simbolismo laico. Quindi tante piste di ricerca. E poi, sempre appunto in questa prospettiva, l'autrice sottolinea l'interesse di De Martino per la dimensione liturgica del teatro popolare. Anche questo è estremamente interessante. Visto, e qui cito, come rito di fondazione della Repubblica, ribadendo al contempo un'altra delle costanti, la connessione tra il religioso e il politico, connessione appunto che è una delle altre costanti della riflessione demartiniana. Tra, come diceva Riccardo, tra i due estremi, la religione civile, la mistica della religione civile e appunto il folklore progressivo, c'è di mezzo, come veramente come elemento mediano e mediatore in tutti e due i sensi, c'è l'adesione alla religione della libertà, importante perché segna il distacco di De Martino dalla ideologia fascista. Prelude agli ulteriori sviluppi del pensiero di De Martino e soprattutto lascia un'impronta indelebile nel suo animo. Il capitolo dedicato a questa problematica è uno dei più intensi e nuovi del libro, tale da meritare un seminario a sé stante. È un capitolo che fa il punto sullo straordinario rilievo che ha avuto nel determinare la svolta intellettuale e politica del nostro autore, la frequentazione di un gruppo ideologicamente molto agguerrito di intellettuali liberali e antifascisti a Bari. Bari, la città nel cui liceo De Martino insegnava storia e filosofia. Penso tra gli altri a figure di grande spessore etico e politico come Michele Cifarelli, Tommaso Fiore, Fabrizio Canfora, frequentazione che a poco diviene condivisione di ideali. A Bari poi ha luogo l'incontro decisivo di De Martino con Benedetto Croce nel 1937, quindi non proprio nella prima giovinezza, incontro all'ombra di casa La Terza. Questi dati, per quanto scarni, danno un'idea dell'importanza del lungo periodo vissuto da De Martino a Bari. Non posso scendere in dettagli, appunto ci vorrebbe una presentazione a sé incentrata proprio su questo capitolo, che è il capitolo, cioè è Bari la città decisiva del percorso intellettuale di De Martino. Non posso scendere in dettagli, dati i limiti in cui devo contenere il mio discorso, e non posso farlo anche perché altrimenti dovrei rinunciare ad occuparmi di un personaggio molte volte citato, decisamente affascinante e piuttosto trascurato, che ha svolto un ruolo importante nella vita di De Martino in un lungo arco di tempo. Alludo, come tutti avete capito, a Vittorio Machioro, la cui ricca personalità di intellettuale cosmopolita Giordana Sciariottì ha saputo assai bene mettere in risalto sottraendolo all'oblio. Un oblio relativo, ma certamente non si parla molto appunto di Machioro come figura di intellettuale a sé. È sempre in qualche modo colui che ha orientato De Martino, il suocero di, è sempre visto in funzione di. E invece qui viene fuori nella sua autonomia e nella sua autorevolezza intellettuale. Una breve scheda di presentazione. Machioro, ebreo sefardita, convertito al protestantesimo, eppure mai sradicato dalla cultura di origine, mai. Ha coltivato, con spirito innovativo, molteplici interessi, dall'archeologia alla storia delle religioni, alla narrativa. È una figura eccentrica rispetto alla cultura ufficiale italiana e come tale merita questa figura di essere riconsiderata. Ora viene la parte, diciamo, più personale di questa mia breve relazione. In questa sede vorrei parlare non in modo generico. Machioro ha avuto un grande rilievo su De Martino, eccetera. Ma vorrei vedere in che senso c'è stata poi una convergenza così forte di interessi, di passioni, di temi tra De Martino e Machioro. Un rapporto che è stato denso, aggiungo, sul piano intellettuale, non meno che sul piano affettivo. De Martino era molto legato, si rivolge in molte lettere a Machioro come a un padre. Quindi è veramente un rapporto anche con delle punte molto tenere, molto molto delicate. Machioro, suocero del nostro autore, è stato per lungo periodo addirittura l'angelo tutelare di De Martino. Un angelo tutelare che però ha avuto un merito importantissimo, quello di avere dischiuso a De Martino negli anni 30, quando non ancora era entrato in rapporto con gli intellettuali baresi, liberali, antifascisti, che lo avrebbero in qualche modo sottratto all'influsso del fascismo e della religione civile, ha avuto, dicevo, il merito di aprire, di dischiudere a De Martino nuovi orizzonti di ricerca, proprio di spostare il suo interesse altrove, fuori dall'ossessione per la religione civile, perché era diventata una vera ossessione, anche perché si è prodotta lungamente nel tempo. E quindi questa frattura deve anche all'influsso di Machioro. E anche in questa circostanza cito un passaggio che si trova nella parte conclusiva del libro, a pagina 337, e per comprendere questo passaggio devo un po' contestualizzarlo. De Martino, dice Giordana, non è stato un grande viaggiatore. Eppure ha molto viaggiato con la mente. Avendo come guida, ha viaggiato nei viaggi altrui, inserendosi nei viaggi altrui e facendo capire a coloro che hanno veramente viaggiato il senso dei loro viaggi. Questo è stupendo. E appunto, si sceglie delle guide di grande prestigio, che si chiamano Gusind, Rasmussen, Shirokogorov, il Gotha dell'etnografia. E appunto sono questi grandi personaggi, oddio, non tutti di questo livello, cioè, ci sono anche persone mediocri, però insomma diciamo che i grandi etnografi appunto sono Gusind, Rasmussen, Shirokogorov in particolare, e sono questi personaggi, questi etnografi di professione, che hanno saputo raccogliere i dati in maniera assolutamente stupenda e stupefacente, sono questi autori che hanno mediato a De Martino i molteplici aspetti del culturalmente alieno. E da questo viaggio della mente è scaturito il capolavoro di De Martino. Ogni volta che io dico un capolavoro, dico poi no, forse un altro, Il mondo magico. Il mondo magico è appunto frutto di questo viaggio nei viaggio attraverso i viaggio come se di De Martino ha scritto un libro come se avesse viaggiato lui, appunto, poi in territori quanto mai diversi, Terra del Fuoco, Australia, Europa del Nord. Generalmente mette insieme pezzi tratti dalle culture più diverse, eppure non c'è libro più omogeneo del mondo magico. È un altro paradosso. Ma ben prima Macchioro aveva favorito l'incontro di De Martino con due altre alterità, con due altre differenze culturali, quella ebrea e quella indiana. Quindi è proprio un quadro molto sfaccettato dell'alterità, dunque alterità etnografica disseminata in tutto il mondo conosciuto, appunto. E poi alterità indiana e alterità ebrea. Per quanto riguarda l'India, sono estremamente interessanti le lettere inviate da Macchioro al genero. Macchioro che si trovava in India in qualità, ed era un ruolo molto prestigioso, di visiting professor, il primo italiano con questa carica importante, va in India nella metà degli anni 30 e con un piglio davvero etnografo, dimmi tu se sbaglio Giordana, Macchioro descrive in modo puntuale gli exploits degli yogin e solleva al contempo il problema dei poteri paranormali, problema che affascina De Martino, problema sul quale De Martino ha scritto un saggio che io dimentico sempre, ecco, Percezioni extrasensoriali e magismo etnologico, pubblicato da Petrazzoni, varie volte evocato, ma io lo concretizzo, in Studi e materiali di storia delle religioni, in due puntate, gli ha dato proprio un grande rilievo nel 42 e poi nel 43-46. Questo saggio costituisce poi, riplasmato, la parte iniziale del mondo magico. Quindi è veramente importantissimo quindi questa problematica dei poteri paranormali, che poi accompagna anche per il resto della produzione demartiniana il nostro studioso. E poi c'è l'alterità ebraica. E qui il discorso si fa più complesso e personalmente più appassionante. Perché appunto non si tratta di un rapporto, come dire, superficiale, di secondo grado, ma di un rapporto molto profondo. De Martino esagera un po', ma si immerge nel mondo ebraico. è veramente una immersione dell'alterità ebraica. E ne abbiamo una testimonianza preziosa dalle lettere. Allora, organizziamo un po' il nostro discorso. Prendo le mosse dal romanzo inedito di Machioro che si chiama Adonai Sevaot, il Dio degli eserciti. E di questo romanzo nel testo di Giordana troviamo un riassunto molto articolato. Il romanzo doveva essere, scusate, estremamente noioso, ma la sintesi è appunto molto molto interessante perché ci porta subito al cuore del problema e poi è una sintesi fatta dallo stesso Machioro per invogliare l'editore a pubblicarlo, quindi doveva mettere il meglio. E ha fatto molto bene Giordana a riproporlo. Che cos'è questo romanzo? E allora, appunto, questo mi ha molto intrigato. Il romanzo ripropone, rielaborandolo in maniera molto personale, però ripropone il tema della diaspora, dell'erranza ebraica, trasferendolo, e qui è la novità molto singolare, dal piano collettivo al piano individuale. E non dal piano individuale e basta, ma il piano individuale con forti venature autobiografiche, cosa tutt'altro che frequente nell'ambito appunto culturale ebraico. Il protagonista ha un nome che appunto è tutto un programma, David Reubeni, o Roibeni, non lo so come si dice, appunto una delle famiglie ebraiche appunto più radicate in Occidente, ci rimangono testimonianze fin dal Settecento a Venezia. Questa volta appunto il protagonista si distacca non da Gerusalemme ma da Praga, che è diventata appunto il centro dell'ebraismo dell'Europa orientale, e non lo fa per costrizione, ma lo fa per scelta, e approda in Italia. Il viaggio in Italia è un viaggio appunto di formazione, chiaramente. Il viaggio in Italia, articolato in varie tappe, è una via di fuga, prima di tutto. È una via di fuga dal padre naturale, molto oppressivo, è un rabbino, quindi, appunto... aspirava a fare del figlio, appunto, ancora... un rabbino a sua volta, ma appunto c'è una voglia di libertà, di autonomia. E quindi il viaggio in Italia, appunto, è una via di fuga dal padre naturale, è una via di fuga dalla religione del padre, è uno sradicamento culturale. E poi è una via di fuga dall'influenza esercitata dal più potente dei padri, Adonai Sevaot, il Dio degli eserciti. Quindi una fuga appunto a tutto, cioè un voler essere completamente altro. Lo spostamento da una città all'altra, che ripercorre le tappe dello spostamento di Machioro, si lega intimamente alla ricerca di sempre nuove esperienze culturali e religiose. È affascinato dal paganesimo, poi dal cristianesimo, poi dice non voglio essere più pagano, non voglio essere neanche cristiano, voglio essere una sintesi di entrambi. È veramente... un lungo viaggio alla ricerca di un'identità che non lo soddisfa mai. È l'inquietudine fatta romanzo, in qualche modo. Appunto, è una ricerca di esperienze nuove, funzionale alla edificazione di una identità altra rispetto a quella di origine, che poi è appunto il tema del tutta l'esistenza di Machioro. È una ricerca mossa soprattutto dall'ansia di libertà, che coincide con l'emancipazione dai condizionamenti atavici. Ma ha successo? No, la libertà agognata è soltanto illusoria, perché David non tarda ad accorgersi, dopo tutte queste infinite peripezie, che non è padrone del proprio destino, che il proprio destino è regolato non dalla propria volontà, decisionale, ma da Dio. E Dio che ha deciso perfino il distacco di David da sé. La conclusione è melanconica. David finirà per andare non dove vuole, ma dove Adonai Sevaot ha ordinato di andare. De Martino inizia la lettura del romanzo fin dal 1935 e ne rimane profondamente sconvolto. Perché? Perché si identifica addirittura in certa misura a David Reubold, chiamiamolo all'italiana, si identifica, ecco perché dicevo il rapporto con l'ebraismo non è un rapporto dall'esterno, è un rapporto che diventa appunto interiore, che viene interiorizzato, si identifica perché? Perché dice che anche la sua vita, e lo confessa in una lettera indirizzata al suocero, anche la sua vita è sorretta da un piano provvidenziale. In una seconda lettera, che appunto è quella che mi ha un po' fatto pensare a una chiave di lettura, in una seconda lettera che è molto penetrante, De Martino afferma tra l'altro, cito testualmente, sgomenta e impaurisce il vero protagonista del romanzo, che non è David Reuboni, è Dio. Sgomenta e impaurisce, sgomentare, impaurire. De Martino si esprime in termini forti che non sono estranei al lessico delle grandi opere, dei grandi saggi teorici, così come non è estraneo alla sua futura riflessione l'impianto ideologico del romanzo. Tutto questo appunto mi è dato da pensare. Il romanzo, così mi è parso, ha toccato una corda segreta di De Martino. Quale? La mia ipotesi di lavoro, sulla quale ovviamente si può discutere, è che De Martino abbia ravvisato nella trama del romanzo la presenza di un tema che sarà al centro della sua riflessione matura di storico delle religioni, di storico della cultura, e che a mio avviso, e qui è appunto la mia ipotesi, abita già i suoi pensieri. Un tema che appunto rinvia all'esperienza inquietante dell'essere agiti da, che implica l'angoscia dello spossessamento, della perdita di sé. Un'esperienza che sia pure in chiave provvidenziale, e quindi in una chiave che può sembrare, tra mille virgolette, positiva, sgomenta e impaurisce, proprio perché sottrae al soggetto la propria autonomia. Su questa tematica è costruito appunto non solo il mondo magico, ma tutto il sistema interpretativo della religione di De Martino. E appunto in un saggio nel 52-53 in cui riflette appunto sulla fenomenologia religiosa mediata e quindi su Rudolf Otto, sul sacro che atterrisce, affascina, appunto c'è proprio questa espressione dello sgomento che provoca appunto il contatto con l'alterità, quando l'alterità si impossessa del soggetto. Del soggetto. Quindi la teoria della destorificazione religiosa, che è il momento forse più alto della speculazione demartiniana, si fonda proprio sul bisogno primario di porre un argine al rischio permanente dell'essere agiti da, in questo caso essere agiti da Dio, in questo caso appunto il piano provvidenziale per cui non sono io, ma è l'altro che agisce in me. Appunto è il suo tema che appunto proprio questa reazione di così profonda immedesimazione, di così grande intensità, appunto, e proprio questo fa pensare che già appunto fosse un tema che abitava, che era radicata nel suo pensiero. Altrimenti non si spiegherebbe questa adesione a un romanzo così complesso. Poi c'è il tema della ricerca della identità, della del pericolo di staccarsi dalle radici, eccetera, eccetera. Ma non è ancora tutto. Una problematica non dissimile è al centro del secondo romanzo, Il gioco di Satana, pubblicato nel 1939, quindi siamo tre o quattro anni dopo il primo romanzo, sotto lo pseudonimo di Benedetto Gioia. Che cos'è questo romanzo? Ancora una volta ritorna la vecchia famiglia ebraica dei Reubeni, divisa in due tronconi, quella fedele alla tradizione e il troncone laico, e il protagonista è un ebreo, appunto, laico, che ancora una volta compie il viaggio in Italia. Si lascia Vienna, ancora una volta il distacco da un centro, il viaggio in Italia, varie esperienze per cercare appunto di creare una nuova identità. Vado molto molto di corsa. Il viaggio ha due tappe fondamentali che poi sono legate alla vicenda di Macchioro: Trieste e Capri, Capri-Napoli appunto. Ma un destino tragico attende sia appunto Giosia che la moglie. Coinvolti in pratiche spiritiche, finiscono per perdere il loro equilibrio, Giosia impazzisce, la moglie si suicida. La ricerca dell'altrove si conclude in un drammatico naufragio, frutto questa volta non del gioco di Dio, ma di un perverso gioco di Satana. Satana ha preso il posto di Dio, ma dal punto di vista strutturale le cose non cambiano. Vi sono evidenti analogie con il primo romanzo, ma il tono è ben più cupo e sinistro. Sul secondo romanzo grava, verosimilmente, il peso funesto delle leggi razziali, promulgate nel settembre del 38, che hanno colpito Macchioro e lo porteranno nel 1940 ad essere internato nel campo di concentramento di Abbadia Fiastra, nelle Marche. Chi è Benedetto Gioia? Si chiede l'autrice, e secondo l'interpretazione più accreditata si tratta dello pseudonimo di Vittorio Macchioro. Giordana avanza un'ipotesi più complessa e dice: sotto lo stesso pseudonimo si nasconde un altro autore, De Martino. Quindi la complicità è totale. O più esattamente, il Benedetto Gioia è un autore composito, Macchioro e De Martino, il cui sentimento di identità personale è altrettanto problematico di quello dei protagonisti del racconto. La identificazione, mi sembra che da queste pagine risulti appunto completa. Ed è un'ipotesi che mi ha colpito e che si armonizza con le mie osservazioni. Perché le mie osservazioni tendono a dimostrare quanto di De Martino ci sia appunto nelle due opere, in particolare nella seconda opera, che tu attribuisci poi tout court a lui. Ed è proprio la problematica, diciamo, dell'essere agitità. Una problematica che riprenderà ovviamente, alla quale che saprà declinare in modi quanto mai complessi e personali, e soprattutto alla quale saprà conferire un adeguato spessore teorico. Un conto è averla intuita, percepita, portarla dentro di sé, un conto è esternarla traducendola appunto in un sistema di pensiero. Però ecco, questo è secondo me il legame più forte tra il prima e il dopo, tra le molteplici vite e il dopo. E chiudo con una nota che riprende una discussione che abbiamo fatto anche a Parigi. Che cosa resta del Martino maturo, di una così intensa partecipazione all'universo culturale ebraico? Poco, a mio avviso, ma di questo potremmo parlare. C'è un paragrafo di morte e pianto, E poi un cenno rapido, indiretto, alla Shoah. È menzionato il processo Eichmann e basta. All'interno dell'opera postuma che è dedicata all'analisi delle Apocalissi. Ecco, è una presa di distanza che, giudicando dal logico, l'occhio appunto di chi vive il presente, suscita problemi e che hanno bisogno probabilmente di un'altra ricerca per essere esplicitati. Ringrazio molto Marcello Massenzio, soprattutto per questa analisi finissima dei due romanzi di Macchioro. Questo tema, sia la metafora del viaggio, è molto piaciuta, l'identità attraverso la metafora del viaggio, e poi questa ansia dello spossessamento, della perdita di sé che da Macchioro si trasmette in fondo anche a De Martino, è il tema dello spossessamento legato all'enorme ricezione che c'è un po' in tutta Europa del testo di Rudolf Otto sul Sacro da Seilig, è come luminoso, no? Questo è mysterium tremendum, questa il idea della, appunto che affascina ma terrorizza al tempo stesso, questa idea del sacro, e tutto sommato sì, anche forse l'itinerario intellettuale di De Martino sembra caratterizzato, no? da questa idea del teorema di impossibilità. Dice un grande cineasta come David Lynch, l'identità in sé è uno strano affare, è difficile in qualche modo dare una soluzione. E poi il tema che tu toccavi molto bello del naufragio, viene in mente la celebre frase che circolava in tutta la cultura europea fra le due guerre, di matrice nicciana ma classica: naufragium feci, bene navigavi. Sono naufragato, ho fatto bene. L'unica maniera per in qualche modo di affrontare le identità è naufragare. Traccia ebraica secondo me molto forte, forse anche indipendentemente dal modo in cui De Martino aveva affrontato qua e là contenuti propri dell'ebraismo, Shoah o altre cose, ma comunque naturalmente qui non è mia competenza. La parola da Maria Signorelli. Grazie. Essendo l'ultima, mi verrebbe la tentazione di giocare di rimessa, però non è leale. Vorrei soltanto così richiamare, a proposito dell'identità ebraica e del rapporto di De Martino con l'ebraismo, è il più alieno da noi, è il più vicino è il più alieno. C'è una costante della ricerca de martiniana, che è la ricerca, certo, del più lontano come più vicino, no? Certo. Basta, mi fermo qui. Vorrei invece ripartire proprio dall'inizio, dall'opera di Giordana Charouti, con una partenza che addirittura è rappresentata dal nome della collana diretta da Francesco Faeta, in cui il libro è stato inserito nella traduzione italiana. La collana si chiama Imagine, studi visuali e pratiche della rappresentazione. Ebbene sì, io ho letto il libro di Giordana Charouti come un'eccellente rappresentazione di Ernesto De Martino, fermo restando che è una rappresentazione, per quanto mi riguarda, eccellente, ma una rappresentazione. E viva Dio, credo che ognuno di noi ha la sua rappresentazione di De Martino, e che è bene che sia così, perché non vogliamo arrivare un'altra volta al Santino, dal quale ci siamo faticosissimamente liberati. Perché uno dei meriti di questo libro è proprio di essere stato scritto da un'estranea, l'avete detto un po' tutti, no? Le regare del Loigné, lo sguardo da lontano. Di Donato ci aveva già dato una bella lezione in questo senso. Noi, gli adepti di De Martino, perché alla fine siamo quasi una specie di setta, no? Con le nostre liturgie, le nostre... Abbiamo anche qualche responsabilità per i santini che sono stati via via costruiti, decostruiti, riproposti. Ci sono più cose nella storia di De Martino di quante forse lo sguardo di noi più vicini ha saputo vedere. Per questo il libro di Giordana per me è stato veramente una sorta di... No, proprio... Te ne sono profondamente grata, una lettura che mi ha aperto una quantità di orizzonti. D'altra parte, vite precedenti. Vero, la vita è una sola, però le vite sono tante. Vi do un dato autobiografico, se me lo perdonate. Nel 1955, alla fine del 1955, il mio ultimo anno di frequenza della Facoltà di Lettere di Roma, vado a sostenere l'esame con Ernesto De Martino e ci vado in uno stato di rapita in estasi, perché per me è stato un incontro intellettuale, è stata la mia via di Damasco, vabbè, un incontro intellettuale che proprio mi ha cambiato un percorso di vita. Devo dire che con mia grande soddisfazione alla fine dell'esame mi propone lui di fare la tesi, mentre io gliela stavo per chiedere e paralizzata dalla timidezza, non osavo, mi propone lui. Dunque, nel 1955, cioè in un anno molto avanzato della sua purtroppo breve vita, relativamente breve vita, De Martino mi dà come argomento di tesi l'antropologia culturale nordamericana e le prime letture che mi fa fare, me le sono riscritte qui perché le voglio citare con esattezza, Teoria e storia della storiografia di un tal Benedetto Croce. La storia come pensiero e come azione sempre di quel tal Benedetto Croce e lo storicismo tedesco contemporaneo di Pietro Rossi, 1955-56. Ho provato anche a chiedermi perché proprio a me, o perché in quel momento, o perché dovresti fare un'analisi dei documenti. D'altra parte, poi, non mi ha mai detto di leggere Gramsci. E io ero molto ignorante all'epoca, no? Venivo da un corso di lettere classiche, sapevo tante cose, avevo persino compulsato, nello zelo della studentessa prima della classe, avevo compulsato il Paoli Vissova, figuratevi. Però ma non sapevo assolutamente niente di folklore, di etnologia, di etnografia, di antropologia, di storia delle religioni, assolutamente niente, e lui sapeva che non ne sapevo niente. Io ero andata a finire a seguire il suo corso per ragioni di completezza di un panorama di storia dell'arte e archeologia, perché pensavo di dedicarmi a quello. Volevo fare arte primitiva, poi non trovai nessun docente titolare che mi affascinasse, c'era questo libero docente di cui io ignoravo tutto, vado a sentire una lezione e mi becco la via di Damasco in fronte, a proposito del lamento funebre. Ma nel 1955, avendo visto il mio curriculum, sapendo che non sapevo niente, non mi dà da leggere Gramsci, non mi dà da leggere niente, nessuno mi dà la storia come pensiero e come azione, teoria e storia della storiografia e lo storicismo tedesco contemporaneo. Poi mi porta a fare La terra del rimorso. Attraverso quest'ottica, il mio De Martino era uno al quale dei contadini meridionali non importava niente, c'era il problema storiografico del perché il cristianesimo non si era espanso. Però non era vero che ai dei contadini meridionali non gliene era importato niente, e forse non era nemmeno vero che allora non gliene importava niente. Ma, cioè, che cos'è una vita? È un insieme di molte vite che uno si porta appresso, no? Forse veramente questo giocare su una vita fatta di vite, credo che, sì, aspetto con molta... Anzi, la seconda parte della biografia di De Martino, anche per un coinvolgimento personale più forte. Però la prima parte è stata densa di rivelazioni. Vorrei dire un'altra cosa, che quello che mi ha entusiasmato del libro di Giordana è il metodo che lei descrive sommariamente, ma molto incisivamente nell'introduzione. A pagina 11 dice che vuole individuare alcune linee di forza che permettono di iscrivere in modo comparativo il progetto De Martignano in imprese intellettuali più ampie, che è una cosa che fa, mi sembra, molto bene anche. Ma c'è di più. In realtà Giordana Ciaruti rivendica l'opportunità, addirittura direi quasi la necessità, di utilizzare nel ricostruire questa biografia di De Martino un metodo etnografico. Mi ha colpito molto e credo di aver capito cosa intendi, perché lo dici sempre tu a pagina 12, che vuoi in qualche modo porre al centro del tuo interesse la genesi delle idee de Martiniane, ma contemporaneamente questa genesi indagarla inserendola nella rete delle relazioni de Martiniane. E sia a proposito della genesi delle idee che a proposito delle relazioni, adottare un punto di vista tu molto antropologico, cioè un tentativo di arrivare a individuare il punto di vista de Martiniano sulle proprie relazioni e sulla genesi delle proprie idee, senza modernizzarlo troppo, senza farlo troppo contemporaneo a noi, a noti con molta sagacia, ma anche il punto di vista degli altri sulle sue idee e sulle sue relazioni. E questo è un percorso antropologico, è proprio un percorso etnografico che, al quale credo di poter dire deve moltissimo la ricchezza, l'articolazione e la efficacia di questa narrazione che fai, che forse non è l'autentico De Martino. Dove sta l'autentico De Martino? Poi forse neanche ci interesserebbe tanto l'autentico De Martino. È De Martino, però, è profondamente De Martino. E vorrei aggiungere, sempre a questo proposito, che proprio per questo mi sembra estremamente importante da tanti punti di vista, e poi cercherò di chiarire, il fatto che tu lo definisci tucur antropologo. Per me personalmente è una liberazione, perché avevo il sospetto che fosse soprattutto un antropologo, però era storico delle religioni, era filosofo, era folclorista, però anche indagatore della realtà metapsichica e poi anche l'inventore dell'equipe l'introduttore dell'antropologia visuale. Io ho sempre pensato che è un antropologo per tante ragioni, sì, ma anche perché gli si addice così bene un'indagine etnografica, proprio questa ricostruzione paziente di come è diventato antropologo, perché è vero che non c'è nato, però è anche vero che l'antropologia di De Martino è un'antropologia che si impara, non è un dono di natura, ed è per questo che è dolorosa da praticare spesso. Perché è veramente un bildung romano, forse, un percorso di formazione. No? Ciò nonostante, Ciaruti sottolinea che è importante mantenere aperta, sono parole sue, tra virgolette, l'incertezza di De Martino stesso circa il campo disciplinare in cui collocare il suo progetto. Però, mentre sottolinea questo aspetto, l'incertezza soggettiva di De Martino nella collocazione del suo progetto, Ciaruti sottolinea però che c'è in De Martino la continuità del bisogno di immergersi in altri mondi per ricostruire la biografia culturale dell'Europa. E questo mi è sembrato molto bello e molto pertinente, molto immergersi. Continuità del bisogno di immergersi in altri mondi per ricostruire la biografia culturale dell'Europa, da cui poi è venuto fuori anche l'accusa di eurocentrismo de Martiniano, che secondo me è il frutto di un grande fraintendimento, ma io sono un po' parziale e fanatica nei miei giudizi su De Martino. E contemporaneamente, oltre a questo filone del bisogno di immergersi nei mondi altri per ricostruire la propria storia, c'è l'altro bisogno, la ininterrotta riflessione sulle condizioni specifiche del lavoro etnografico in rapporto a ogni altra forma di documentazione storica. E qui mi permetto di fare un altro omaggio alla serietà scientifica di Giordana Charutti, perché c'è veramente, a proposito delle condizioni specifiche del lavoro etnografico in rapporto a ogni altra forma di documentazione storica, c'è veramente implicita, ma forse del tutto consapevole, nel suo modo di lavorare, c'è una fondamentale indicazione demartiniana, e cioè la stretta dipendenza che lega il documento al problema e il problema al documento. La lezione secondo la quale non si fa etnografia solo raccogliendo documenti, ma non la si fa neanche solo collezionando problemi. Sono mestieri diversi, no? Si possono raccogliere i documenti e basta, come si possono collezionare problemi? Il lavoro etnografico nasce dalla dialettica, perdonate questa parola abusata, desueta e un po' colpevole, ma nasce dalla dialettica fra documento e problema, e direi che non c'è un solo documento in questo libro che non rinvia un problema che Giordana si è posto e per la soluzione del quale il documento è utile, è funzionale, serve. Poi si può discutere la soluzione, può anche non quadrare, no? Si può dissentire, possono venire fuori nuovi documenti o si può riformulare il problema, ma non c'è mai gratuità e non c'è mai la rottura di questo nesso che mi sembra fondamentale e profondamente demartiniano. Dopodiché io mi sono soffermata con particolare curiosità su alcune cose che riguardano i primi anni di De Martino, che mi erano i meno familiari, i più ignorati, lo confesso, no? E mi sembra che vengano fuori degli spunti di riflessione che vi propongo come tali, senza avere la pretesa di andare più in profondità, ma che potrebbero essere tutte quante piste di un qualche interesse. Per esempio, De Martino ha un'infanzia e un'adolescenza nomadi, di un nomadismo privilegiato, perché ovviamente suo padre è un alto funzionario dello Stato, ha probabilmente una cospicua retribuzione, perlomeno una retribuzione tale che permette a questi cambiamenti di residenza di essere indolori, forse positivi, interessanti, curiosità, novità. Però è un fatto che De Martino i primi anni della sua vita li vive un po' qua e un po' là, e fa un po' qui e un po' là quelle scuole elementari, medie inferiori e medie superiori che hanno una grande importanza nella formazione giovanile di tutti, credo, no? Lo chiamano l'etnologo napoletano, per conto mio De Martino di napoletano c'ha abbastanza poco, e non rivendica mai Napoli come sua patria, ma in compenso ha rivendicato la patria culturale De Martino. Mi chiedo se c'è un nesso fra questa esperienza infantile e adolescenziale di sradicamento e riradicamento, esperienza che si direbbe serena, tutt'altro che traumatica, che però gli ha dato intanto una fondamentale profonda curiosità per l'altro da sé, un coraggio anche di porsi mentalmente, pochi viaggi ma molta capacità di rigenerare mentalmente le pretese anche dei grandi viaggiatori. Forse potrebbe essere una pista di riflessione. Ce n'è una seconda che forse è più densa, più interessante. Cioè, De Martino a intervalli regolari ci ha raccontato della sua origine piccolo borghese meridionale, per dichiararci quanto la disprezza, quanto gli fa male, quanto gli è cattiva, quanto lo affligge e quanto lo danneggia. Ora, per quel pochino di sociologia dell'Italia meridionale che mi è capitato di praticare in vita mia, la famiglia di De Martino è tutt'altro che piccolo borghese. E ti ringrazio per averla ricostruita con tanta precisione. Dico, nella Napoli della prima metà del Novecento, una famiglia che da tre generazioni annovera laureati, e laureati di prestigio, laureati tecnici, ingegneri architetti, non solo, ma una famiglia in cui pure le donne hanno una qualche istruzione. Non è una famiglia piccolo-borghese, non è una famiglia piccolo-borghese. Cos'è che De Martino rivendica, o cos'è che a cui allude quando rivendica quest'origine piccolo-borghese? Di che sta parlando? Perché poi è un discorso che lo affligge parecchio, no? Tu citi in vari contesti e ritorna anche dopo, fino alla fine forse quasi, questo discorso. Di che sta parlando? Tra l'altro direi che, sempre per quella che è stata la mia esperienza sul campo, nell'Italia meridionale e in particolare a Napoli, la vera piccola borghesia meridionale è raro che abbia l'apertura mentale del padre di Ernesto Senior, no? La capacità di seguire il figlio nelle sue scelte, di accettarlo, e tutta una serie di altre considerazioni. Torno a dire, cos'è che De Martino dice quando dice di essere un intellettuale piccolo borghese? È una sorta di autoidentificazione, no? È un applicarsi un'etichetta. È un altro interrogativo che mi si è posto e che trovo interessante. Terzo punto, e poi mi avvio alla conclusione, ma il terzo punto è massiccio. Ho trovato molto stimolante la corrispondenza con Armando Forte, anche se la conosciamo. Per almeno vorrei mettere a fuoco soprattutto due aspetti che mi sono sembrati importanti. Intanto Ernesto, che quando comincia la corrispondenza è ancora giovanissimo, perché sta ancora al liceo, dà per scontato il proprio destino di intellettuale, di grande pensatore, non di pensatore, di grande pensatore, perché sarà filosofo, sarà poeta, sarà romanziere, ma lui farà cose grandi, progetta cose grandissime, di un'ambizione veramente, a differenza del suo interlocutore, che non, forse perché è più grande, forse anche perché è diverso da lui, mi sembra che Armando Forte sia più problematico nei confronti del proprio destino, no? Anche lui con delle ambizioni ragguardevoli, però si direbbe più con i piedi per terra, più realistico, ecco. Ma il fatto è che in queste grandi prospettive demartiniane, in questi disegni ambiziosissimi, c'è una doppia connotazione. C'è il destino del grande intellettuale, ma c'è sempre anche una dimensione che ho chiamato, tra virgolette, politica, in questi disegni, nel senso che, è stato anche accennato qui, l'intellettuale per lui è sempre anche un po' profeta, messia, salvatore, comunque in qualche modo, cioè sempre, lui si pone sempre un compito di riscattare, rifondare, rinnovare, no? In questi modi molto giovanili che anni dopo Marchioro gli farà notare quanto sono alle volte contraddittori, incongruenti, però c'è sempre questo dover essere antesignano, una luce, una guida, come una connotazione intrinseca del destino dell'intellettuale. E questo mi ha colpito perché è una cosa che poi si ritrova nelle appendici della Terra del Rimorso. C'è qui Vittoria, ma quando lui fa insieme a Vittoria quell'appendice sulle possibilità di intervento, che tra l'altro, scusami Vittoria, è uno degli scritti più fragili di Ernesto, più inaccettabili, più da rimandargli al mittente, e però ancora nel 1961 c'è questa ansia, questo sentimento di un dovere che non può eludere l'impegno concreto, l'impegno operativo, l'impegno all'azione. Però Naturalmente, con l'emergere di questa duplice, questo duplice carico, questo duplice impegno, questa duplice ambizione, cominciano a emergere le contraddizioni e le paradossie che lo accompagneranno poi tutta la vita. Dice Giordana molto bene: ogni volta sotto nuovi soli spuntano tensioni e ambiguità tra le esigenze del pensiero e le esigenze dell'azione. E mi sembra benissimo detto, in termini molto semplici ma molto pertinenti. Sono veramente... E attenzione, non si tratta solo di contraddizioni e incoerenze interiori, personali, di ordine psicologico. Si tratta piuttosto delle contraddizioni oggettive che sostanziano l'esserci nel mondo e che perciò non investono solo la sfera affettiva del soggetto, ma la totalità della sua realtà esistenziale. Sono quelle contraddizioni del compito dell'intellettuale, forse direi dell'antropologo in particolare, e forse tutti noi più o meno che facciamo sto mestiere le conosciamo, no? Credo che pochi le abbiano vissute, le abbiamo vissute, con la drammaticità che caratterizzava il coinvolgimento totale, esistenziale, intellettuale e morale di Ernesto De Martino. E questa mi sembra una cifra costante della sua vita, rispetto alla quale le tappe che sono state così brillantemente illustrate nei vari interventi possono essere ricollegate tutte sempre come un tentativo di una ricerca di equilibrio tra le tensioni e ambiguità che nascono tra le esigenze del pensiero e le esigenze dell'azione. Ma c'è qualcosa di più. Il capitolo sull'amicizia tra Armando Forte e Ernesto De Martino viene concluso da Giordana Sciaruti con una frase inquietante che mi ha sconcertato. Lei dice: c'è più di un morto nella biblioteca di De Martino. Ora, riferendosi ad Armando Forte, ora questa frase si può interpretare anche in un modo molto piatto, molto banale. Chi di noi, tutti abbiamo una biblioteca fatta di morti, no? Voglio dire, le opere di chi è trapassato prima di noi stanno tutte lì, interpretazione la più banale. Ma purtroppo nella nostra biblioteca ci sono anche le opere di quelli che abbiamo conosciuto vivi e che sono trapassati prima di noi. Ma qui io ci ho letto qualche cosa di più. Ci leggo un'allusione non solo ad Armando Forte, ma a tutti e tutte coloro che nel corso degli anni saranno, perdonatemi, li ho chiamati i capri espiatori, intellettuali ed esistenziali, non psicologici, intellettuali ed esistenziali, capri espiatori peraltro spesso consenzienti e talvolta addirittura entusiasti, sui quali De Martino scaricherà di volta in volta la tensione insostenibile delle sue proprie contraddizioni intellettuali e morali, non psicologiche. Anche questo mi sembra un tema su cui riflettere, su cui proseguire l'indagine, perché non lo leggo nei termini di una biografia demartiniana, meno che mai credo, spero di non leggerlo nei termini di un biografismo pettegolo alla ricerca di chi sono stati i capri espiatori, non mi interessa questo. Mi sembra invece che qui abbiamo una occasione per riflettere su un problema che molti di noi in qualche misura hanno conosciuto, che forse tutti abbiamo conosciuto, in misure diverse, e cioè il problema delle condizioni, delle contraddizioni e dei costi soggettivi e oggettivi del lavoro antropologico, che quando è fatto bene non è una sinecura, non lo è affatto. D'altra parte, pensate soltanto a tutta la voga che per fortuna sta un po' passando, dell'autoriflessività. che a me non mi ha mai fatto una grande impressione, perché appunto ero cresciuta sull'etnocentrismo critico. Ma l'etnocentrismo critico è la messa in discussione di ciò che si ha di più caro. E rapportarsi costantemente a ciò che è più alieno per capire ciò che è più vicino, per allargare l'orizzonte di ciò che ci è congeniale, questa operazione quotidiana è un'operazione che crea una tensione insostenibile e qualche capro espiatorio. Ci vuole. D'altra parte, vabbè, sulla militanza fascista e la mistica fascista e la religione civile sono state già dette cose preziose e non credo che valga la pena di tornarci sopra. Tra l'altro, con le competenze piuttosto scarse che ho io, non potrei dire nulla di interessante. C'è invece un'ultima cosa che vorrei dire. Sempre a proposito delle molte vite e di come poi una vita prende la fisonomia complessiva che la caratterizza. C'è la lettera dell'8 aprile 1936 di De Martino a Macchioro che contiene questo grande progetto sulla Repubblica di Dio, no? Uno degli ultimi, perché ormai siamo già nel 36, insomma non è più un ragazzino, no? È 36 dell'8, 28 anni. Insomma, c'è questa ambizione, questo bisogno, io non la chiamerei nemmeno ambizione, è proprio un bisogno di respirare largo, no? Di immaginarsi, tanto che Macchioro gli risponde: va bene, però non si capisce che diavolo vuoi fare. Vuoi scrivere una nuova Città del Sole? O vuoi scrivere un libro di storia? O vuoi scrivere un libro di filosofia della storia? Tutto insieme non ti conviene provare a farlo perché viene un gran papocchio. Macchioro ha un linguaggio più raffinato del mio. Però il sugo del discorso è questo. La replica di De Martino non è citata per esteso. Però in fondo, è soltanto un ambizioso progetto giovanile, è soltanto una ingenua ancora fuga verso orizzonti di gloria, o ci si può cogliere una sorta di preavviso di qualcosa che invece ha avuto ben altri e ben più sostanziosi sviluppi e che, pur mantenendo forse una qualche dimensione utopica, non è stata priva di connessioni molto solide, per un verso con la realtà e per l'altro verso con la teoria. Voglio dire, forse De Martino, una delle tante chiavi di lettura sintetiche che si possono proporre, che mi azzardo a proporre, è forse l'ambizione di Martiniano, il progetto di Martiniano di fondare etnograficamente un qualche cammino verso una qualche Città del Sole. In fondo l'umanesimo etnografico, che è senz'altro una concezione che ha una valenza utopica e che però è anche un esito che ci viene oggi imposto drasticamente dalle condizioni in cui viviamo, dalle piazze di Tunisi e del Cairo, se volete, no? Ecco, lì mi pare che si possa arrivare alla fine di questa vita, che bene o male si è spenta a un certo punto, si è conclusa, per quanto continui a vivere nel nostro apprendistato, nelle nostre esegesi, nella nostra lettura semplicemente. Però quello che volevo dire è che appunto questa giovanile baldanza di visione utopica si è saputa poi sostanziare in qualche cosa di ben robusto, forse proprio per il fondamento etnografico che De Martino è stato capace di dargli. Grazie. Bene, grazie molto a Maria Signorelli, in primo luogo per la rivendicazione poi della identità, tra virgolette, antropologica di De Martino ci è arrivato attraverso un percorso duro, è stata un'acquisizione non facile, tu l'hai detto in maniera molto chiara, e poi anche per la rivendicazione della natura della sua passione etnoantropologica. Lo specchio dell'altro serve a capire meglio noi stessi, a far luce sulla biografia culturale dell'Europa, e quindi la chiave dell'etnocentrismo critico, come in fondo scoperta che non ci può essere un punto di vista dal di fuori, una view from nowhere, uno sguardo esterno, no? Quindi non possiamo non essere etnocentrici. Importante è esserne consapevoli e sapere controllare questo nostro etnocentrismo attraverso una relazione con l'altro. Una osservazione proprio sulla tua biografia intellettuale, i tuoi rapporti con De Martino. Il fatto che De Martino ti avesse consigliato testi di Croce, due testi di Croce, e il testo di Pietro Rossi, appena uscito allora, sullo storicismo tedesco contemporaneo, è curiosa, perché in fondo si spiega perché, no, si spiega che lui, insomma, lui continuava ad avere questo, diciamo, questo confronto costante con la tradizione storicista. Però lui ti consiglia due storicismi diversi. Quello italiano, rappresentato appunto da Croce, quello tedesco che parte da Diltai, cioè dal metodo Streit, cioè dalla disputa sul metodo, scienze naturali, scienze sociali, Diltai, Windelbar, Rickert, Weber, certo. E poi fino, vada bene, fino a Spengler, Tramonto dell'Occidente, pari pari prendete l'indice del libro di Pietro Rossi, prendete l'indice della tesi di dottorato di Raymond Aron, La philosophie critique de l'histoire, l'indice è quasi identico. E non escludo che qualcuno avesse passato anche a De Martino cioè l'idea che era in fondo il precipitato di una ricostruzione del pensiero tedesco fatta nell'ambito poi della sociologia, del pensiero sociologico francese. Prima da Aron, cioè quel tipo di genealogia è una genealogia che risale a Raymond Aron, risale assolutamente a Raymond Aron. Come dire, insomma, dico un dato, cioè nel rapporto certo. Tra dato e problema, comunque quello è un dato. E quindi probabilmente lui ti consigliava due diverse piste dello storicismo. Questa è la mia impressione. Senza consigliarmi altro, però. E per studiare l'antropologia culturale nordamericana, dove il collegamento c'è, perché Boas viene da una formazione tedesca, e di Boas si insiste sempre molto sugli aspetti di scienziato della natura, ma in realtà questo storicismo particolaristico, come lo chiama Harris, è un dottorato in geografia. Sì, però c'è un'influenza insomma, veramente un po' delle... Comunque la definizione del concetto di cultura nell'ambito del dibattito dello storicismo tedesco poi la coppia cultura-civilizzazione, quella probabilmente era anche in buon senso il mare. Però di Donato, il Boas che arriva negli Stati Uniti e che fonda l'antropologia culturale nordamericana, col giovanotto che si era laureato sul mare, ormai ne ha fatta di strada del giovanotto. Che capisce molto in anticipo dove inseriarsi, e poi conosce la filosofica, che però è positivista, perché Boas si realizza nel museo etnografico, nella raccolta dei dati, poi c'è Razza e Cultura. Razza e Cultura è quel libro. No, e poi c'è il suo magistero ai suoi allievi, insomma, no? dove ci sono le tracce più interessanti di questa sua, di questo suo culturologismo, se vuoi. Sì, certo, no? Su quale si può discutere molto, non è che... Bene, io penso sia giunto il momento, sì, per noi molto gradito, di ascoltare l'autrice, la collega Giordana Charity, quindi io la invito a occupare posizione centrale. No, dai. Prima di tutto vorrei ringraziarvi tutti voi per queste letture così generose e così ricche di spunti, e non ho preparato nessun testo particolare, soltanto rispondere alle spinte che avete proposto gli uni e gli altri. E in effetti la questione del metodo che sottolineava Amalia per me è stato costante, perché ci troviamo in questo periodo, in un momento di grande riflessione su come ricostruire e riscrivere la storia disciplinare. Questo è vero in tutte le scienze sociali, siano storici, sociologi, e l'antropologia forse viene un po' dopo. Il fatto che, per esempio, gli storici che sono stati molto critici in confronto alla biografia si siano messi anche loro a ricostruire degli itinerari intellettuali tramite il metodo biografico ripensato, ovviamente, pure gli storici delle scienze che hanno prodotto delle biografie intellettuali di scienziati science pure. Credo che siamo nel momento, mi sono trovata in un momento favorevole per ripensare come si poteva rimanere antropologa facendo una biografia intellettuale di un antropologo. Questo è stato sempre il mio obiettivo, e sono molto grata a Amalia di aver sottolineato questo aspetto del sono rimasta etnografa. Ho voluto rimanere tale quale, o per 20 anni ho fatto dell'etnologia di pratiche rituali in diversi punti dell'Europa mediterranea, e volevo mantenere questa specificità della descrizione etnografica, che difatti porta in sé la scelta di pensare le identità come delle relazioni, dei rapporti, e non come delle identità sostantive. E dunque fare portare l'inchiesta sul rapporto e non su uno o l'altro delle due persone, questo era molto importante. D'altra parte c'è il fatto che quando si passa dalle pratiche rituali popolari o no all'attività intellettuale, gli intellettuali, ovviamente c'è uno spostamento degli oggetti. E quello che mi è stato molto utile è di aver lavorato nel campo dell'antropologia della scrittura, perché mi sono trovata con materiale che era materiale scritto, e in particolare la ricchezza dell'epistolario in modo generale per ricostruire rimanendo nell'esigenza della descrizione etnografica, ricostruire quali erano le esperienze che si costruivano a poco attraverso questi epistolari. E devo dire che nel caso di De Martino è stato una scoperta, era molto... Era abbastanza facile farlo perché appunto c'è un archivio, ci sono diversi archivi che sono veramente molto ricchi. E in particolare voglio sottolineare che non avrei mai potuto mettere in rilievo l'apporto di Vittorio Macchioro, di cui si è parlato molto, senza il lavoro di Riccardo Di Donato. È ovvio che la scoperta dell'importanza di Vittorio Macchioro, la pubblicazione delle diverse corrispondenze, per me era un punto di partenza che poi... mettendolo in confronto con l'archivio in sé di Macchioro, era assolutamente indispensabile. E lì c'era ancora una scelta di tipo etnografica, cioè non dividere quello che per gli archivisti di mestiere si distinguono corrispondenze di, scientifiche, corrispondenze private. Scritture fizionali o scritture scientifiche. Ho sospeso volontariamente tutte le classificazioni normative dai nostri modi di lavorare delle scienze. E questo è il metodo etnografico classico che ho trasportato nell'ambiente colto. Da questo punto, adesso riparto su alcuni punti che sono usciti, ovviamente non posso rispondere a tutto. È evidente che, e me ne sono accorta anche in questi giorni, rileggendo le parti di questo libro, in effetti Petagioni è rimasto un po' indietro in questa biografia, forse perché, da una parte... c'era questo immenso lavoro di Mario Gandini che a me mi sembra, devo dire sinceramente che ho scoperto da poco tempo che c'era il sito internet Petazzoni dove Mario Gandini ha messo tutto il suo lavoro. Io conoscevo soltanto delle parti pubblicate nella rivista e veramente penso che bisognerebbe pubblicare questo lavoro dandogli un accento più antropologico che non quello delle riduzioni molto minuta, ma è un lavoro molto importante perché incrocia dei rapporti di culturali che sono essenziali. E nel caso di quando ho lavorato su questo aspetto del rapporto con Petazzoni, non avevo trovato un documento che mi permetteva di entrare nella persona più intima di Petazzoni. Penso alla differenza con Omodeo. Io sono stata assolutamente affascinata dall'epistolario di Omodeo pubblicato da Einaudi, che è splendido perché lì si ha una persona viva. Nei testi scientifici di Omodeo c'è una scrittura molto accademica, molto da te, mi sembra. Invece le lettere sono di una modernità totale. E allora si può riprendere per una descrizione etnografica. Invece per Petazzoni non avevo questo tipo di documento, certamente esiste, bisognerebbe chiederlo a Mario Gandini, ma e questo spiega in parte il fatto che è rimasto effettivamente nell'ombra un po'. Sul problema del fascismo, come giustamente, e piuttosto della ricerca di una religione civile tramite il fascismo. Sono grata a Marcello Massenzio di sottolineare il fatto che effettivamente è una parte della traiettoria di De Martino che è, qui nous dérange, non so come dirlo in italiano, che ci dispiace. Io ho letto e ho lavorato con De Martino, con il grande De Martino della trilogia meridionale, ho fatto dell'etnografia partendo dalla sua etnologia. Per l'antropologia del simbolico costruito intorno a Daniel Fabre a Toulouse era un riferimento assolutamente essenziale. Dunque io ho vissuto per 20 anni con un De Martino del dopoguerra facendo l'etnologo nel sud dell'Italia. Quando ho letto questa tesi di Eugenio Capocasale su questo fascicolo della religione civile, sono rimasta molto turbata, devo dire. E sono grata a Marcello di avermi dato questa tesi. Mi ricordo come l'hai fatto. Hai riflettuto 2 minuti prima di darmela. E ho sentito che era un gesto di fiducia che mi era fatto e che dovevo essere all'altezza di questo gesto di fiducia. E poi ho cercato di... Non avevo mai lavorato sul fascismo, è una questione per me che era totalmente estranea. Questa tesi di Capocasale era un commento molto preciso che si avrebbe potuto pubblicare di tutta la contestualizzazione del testo di Martignano con la storia culturale che è ormai disponibile. E per cercare di rappresentarmi un De Martino tenendo questo tipo di discorso, ho dovuto leggere tutto quello che, una grande parte degli studi sul fascismo che per me erano abbastanza sconosciuti. E lì ho visto la ricchezza delle problematiche dei storici culturali del fascismo. Però devo dire nello stesso tempo, non so, forse in Italia è meno presente, ma da noi in Francia c'è una lettura ormai che si è imposta, venuta dai politologhi, scienze politologhi, quella di Emilio Gentile sulla religione politica, che per me da una parte sì, si può aderire a questa lettura, ma in un altro senso l'antropologo resiste a questo uso metaforico di tutto un linguaggio, mito, liturgia, rito, eccetera, che mi sembra usato soltanto su un modo metaforico per risolvere un problema che non è risolto. E mi sembra che il caso De Martino è assolutamente esemplare per poter uscire dall'impasse della riappropriazione da parte dello studioso di questo vocabolario metaforico. Perché quello che caratterizza questo itinerario così dérangeant e che da una parte è l'attore di questa mobilitazione e lo è con passione, ma dall'altra parte c'è sempre questo distacco, questa riflessività sull'azione, perché in quanto giovane storico delle religioni sa benissimo che cos'è un sistema religioso e non ci ritrova, fa problema. E dunque è questo rapporto difficile, conflittuale che lui ha con questo impegno militante e con questa necessità, questa esigenza di clarificazione concettuale, che mi sembra un caso esemplare per poter spostare la domanda, non tanto di dire ma è o, no è o non è una religione politica il fascismo, ma piuttosto quali sono i problemi che si pongono a quelli che vogliono, che aderiscono all'autorappresentazione del fascismo come religione. E dunque da questo punto di vista mi sembra che De Martino è un caso assolutamente esemplare e in questo senso che mi è sembrato utile riprendere questo momento, non ovviamente per dare presa a tutte le manipolazioni che si possono ben immaginare di una traiettoria così complicata, ma invece per poter progredire noi stessi nella comprensione di che cosa differenziava la ricerca della religione civile e l'attualità del fascismo nel quale era preso. Su Macchioro, in quanto l'irrazionalità di Macchioro, io sarei molto più prudente, perché appunto, e forse è questo che è un po' diverso dalla lettura proposta da Riccardo Di Donato, mi sembra che anche lì, se possiamo assolutamente rimanere etnologi classici e considerare che l'uso delle pratiche divinatorie non è una pazzia, è un uso per gestire l'arbitrario, l'aleatorio. Certo ci disturba perché è un intellettuale che ha ricorso a questi usi, ma se mettiamo da parte le nostre credenze nelle nostre razionalità, allora si può benissimo descrivere le pratiche divinatorie nelle quali De Martino è preso e la famiglia è presa come delle logiche simboliche di gestione di tutte queste situazioni che scappano alla volontà di controllo, alla possibilità di controllo umano. È lì che mi sembra che appunto il fatto di sospendere lo partage, la divisione tra pubblico e privato, ci consente di reintegrare nella traiettoria dell'etnologo un momento molto importante di costruzione della sua persona come capace di non solo pensare, ma di provare delle logiche irrazionali e di metterle a di farne l'esperienza a se stesso. Ringrazio Marcello per questa lettura dei due romanzi e di questo tema dell'essere agito, da che effettivamente mi sembra uno spunto molto, molto importante e che forse fa la complementarità con Macchioro, perché l'uno lo vive sul modo positivo, la provvidenza, sono eletto, e l'altro invece lo vive sul modo inquietante. Sì. Credo che è meglio lasciare le...